A tempo di sport di Giovanni Capuano. E siamo a poco più di un quarto d'ora dalla fine della prima partita di Antonio Conte dopo la squalifica a Palermo, Juventus che è in vantaggio per 1-0. E siamo al 28esimo minuto della ripresa, decide fin qui un gol di Lichtsteiner a inizio di secondo tempo, la Juventus che però ha sprecato tantissimo, ha colpito due pali con Vucinic, è una Juventus che sta ampiamente meritando questo successo anche se c'è l'ombra di un possibile calcio di rigore per un fallo di mano di Pirlo non concesso quando si era ancora sullo 0-0. Partita difficile anche per le condizioni del terreno di gioco, perché a Palermo piove dall'inizio della gara e a un certo punto ha cominciato anche a grandinare, tanto che il secondo tempo è iniziato in ritardo. Rapidamente il riepilogo dei risultati quando siamo nell'ultimo quarto d'ora. Abbiamo detto, la Juventus conduce 1-0 a Palermo, gol di Lichtsteiner, vince 3-1 di rimonta al Milan a Torino, Milan che era andato sotto nel primo tempo per un gol di Santana poco prima della mezz'ora su retropassaggio sciagurato di Nocerino, e poi ha pareggiato con Robinho al 40esimo e nella ripresa all'8 con Nocerino e al 16esimo con Pazzini, schierato dal primo minuto, ha trovato le reti del 2-1 e del 3-1. E poi sta vincendo fuori casa il Chievo a Cagliari per 1-0, rete di Paloschi, e sta vincendo 2-0 il Pescara sul Genoa, gol di Abruscato e Vukušić, tutto nel secondo tempo. E poi l'altro risultato che sta maturando è quello di Siena, dove il Catania conduce per 2-1, Rosina per i senesi, il gol dell'1-0 nel primo tempo, poi nella ripresa la rimonta di Castro e Bergessio, e intanto il Palermo è rimasto anche in 10 uomini per l'espulsione di Morganella quando manca un quarto d'ora alla fine della partita. Io ricordo i contatti per intervenire in questa trasmissione, per dirci che cosa ne pensate della prima giornata di Conte di nuovo sulla panchina della Juventus, ma non solo, insomma, per parlare di quello che volete. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Potete scriverci sulla pagina di Facebook a tempo di sport trattino radio 24, oppure possiamo anche chiacchierare via Twitter @CapuanoGio. Io però volevo partire, mentre seguiamo le fasi finali di questa giornata di Serie A con la Juventus vicina al raddoppio a Palermo, volevo partire dallo sci e saluto Flavio Vanetti. Buon pomeriggio Flavio. Salve a tutti, buon pomeriggio a voi. Ti immagino di ritorno da Val d'Isère, giusto? Sì, sto giusto partendo in questo momento. Ecco, intanto 4-1 del Milan, te lo racconto in diretta, dunque Milan che ha chiuso virtualmente questa partita, mentre oggi nel gigante di Val d'Isère ci sono stati segnali di riscossa e di ripresa per lo sci azzurro. Oggi su molti giornali la delusione dopo il risultato di ieri nello slalom speciale, mi sembra di poter dire che oggi è andata meglio dietro i grandissimi. Beh, non troppo, però in realtà c'è questo pensamento di Berdone in questo quinto posto con una buona rimonta nella seconda manche e poi anche la bella risalita di Nani che praticamente da penultimo è arrivato fino al 10° posto, però alla fine manca un po' di qualità. Sinceramente questo bilancio della due giorni Val d'Isère è un po' deludente, sicuramente per la prova dello slalom di ieri, ma in parte anche se vogliamo per i gigantisti, perché si arrivava da due podi consecutivi, il secondo posto di Mölgen a Piattone Sölden e il terzo di Simoncelli a Beaver Creek, e insomma ci si aspettava perlomeno di poter ancora una volta salire sul podio. Invece non è stata così favorevole la gara, Simoncelli ha sbagliato subito nella prima manche, praticamente non si è qualificato alla seconda. Gli altri, diciamo che insomma, si sono viste giornate migliori sul fronte dei nostri gigantisti. Resta un po' la mano in bocca, però è vero che c'è un minimo di continuità. Abbiamo recuperato Blardone che non era andato bene nelle prime due gare, e a voler vedere Mölgen è ancora terzo nella coppa di specialità e quarto addirittura in quella assoluta e quella generale. Insomma, speriamo di non dilapidare adesso con l'arrivo delle gare italiane questa parentesi americana che ci ha regalato le due vittorie nelle prove veloci, appunto terzo posto di Simoncelli in gigante. Sì, il bilancio a livello dei numeri è un bilancio ancora positivo. per lo sci italiano in queste che sono le discipline tecniche, i segnali non sono però pienamente confortanti e io credo la preoccupazione di Jacques Théolier ieri è arrivato a dire dopo lo slalom questa non è la mia squadra ma soltanto la controfigura, io credo che questa preoccupazione venga in maniera corretta proprio dalla lettura di questo momento al di là poi dei punti e delle classifiche. Sì, sicuramente Théolier ha detto una cosa molto interessante e poi ha ripreso oggi Ravetto, con il quale appunto ho un po' approfondito il discorso, ed è il concetto che bisogna fare un salto di qualità più che altro mentale, cioè come ha detto Ravetto ci sono degli atleti come Hirscher, come Pinturo, che oggi avrebbe forse vinto se non avesse sbagliato a due porte dalla fine, come Ligeti, che hanno alzato l'asticella in una società appunto come il gigante, ma in generale anche in altre discipline si nota un po' questa tendenza ad alzare il livello. Ecco, noi dobbiamo essere bravi a non farci lasciare indietro da questa situazione. E proprio Ravetto, facendo il segno di quello che diceva appunto ieri Théolier, auspica che in questa squadra ci sia appunto il desiderio, la voglia di anche provare a rischiare di più, cioè di non accontentarsi mai della buona prova, del compitino, ma di correre anche qualche rischio oltre il giusto per cercare di vincere, perché poi alla fine è quello che crea la mentalità e l'attitudine appunto ad essere pronti nei momenti che contano, ad esempio il mondiale del prossimo febbraio a Schladming. Sì, non c'è dubbio, dove è ancora da capire con che tipo di ambizioni potremo andare, soprattutto nelle discipline più tecniche, mentre c'è chiaro ad esempio che per la velocità abbiamo probabilmente ritrovato la classe di Innerhofer che ci mancava e può essere da questo punto di vista uno stimolo, io credo, anche per tutti gli altri. Sicuramente abbiamo una squadra di velocisti che fino all'anno scorso ha avuto risultati altalenanti, tendenti però un po' al deludente dopo l'exploit appunto di Inner a Garmisch, e diciamo che è una squadra che ha fame, per cui sicuramente è motivata. C'è anche una congiuntura stradale favorevole, in questo momento non ci sono grandissimi rivali in circolazione, per esempio uno come il svizzero Foyt è infortunato, si è ritirato Kusch, De Fago non sta ritornando, quello che ha vinto l'Olimpiade, insomma ci sono tante situazioni che possono permettere ai nostri finalmente di consolidare un talento che comunque esiste, perché noi non vinciamo e non facciamo risultati perché gli altri sono più scarsi, ma anche perché siamo bravi noi, però dobbiamo dimostrarlo e, ripeto, consolidarlo una volta per tutte. Non c'è dubbio. Allora, intanto il 4-2 del Torino contro il Milan ha segnato Rolando Bianchi, mentre la quarta rete del Milan era stata firmata dal solito El Shaarawy, e poi da segnalare anche il terzo gol del Catania a Siena, dunque Siena 1, Catania 3. Per chiudere, Flavio Vannetti, Corriere della Sera, di ritorno da Val d'Isère, mi incuriosisce proprio Pinturol, il francese, grandissimo talento, 21 anni, ha vinto ieri nello slalom, oggi avrebbe vinto se non si fosse piantato a due porte, non avesse sbagliato, sicuramente sarebbe finito sul podio, ma probabilmente avrebbe vinto anche questo gigante, viene da due ori nei mondiali juniores proprio in gigante e ha tutta l'impressione di voler essere la sorpresa e il talento emergente di questa stagione. Sì, sicuramente anche il talento della Francia, una Francia che sicuramente punta molto su di lui, questo ragazzo ha dei piedi sicuramente molto molto agili e in grado veramente di far correre i sci in una maniera straordinaria, poi ha quella giusta dose di aggressività. Oggi probabilmente si è rovinato proprio per l'eccesso di voglia di strafare, aveva oggi un vantaggio nel gol di 2 secondi e 6 in quel momento su chi era in testa e anziché cercare di gestire quell'ultima parte ha voluto tirare fino all'ultimo, un risultato che ha sbagliato. Certo, si può dire che ha commesso una fesseria, però forse questa è proprio la mentalità che piace a un Ravetto, che vorrebbe vedere anche nei nostri. Sì, sono errori di gioventù, ma sono anche errori che denotano una grandissima personalità. Esatto. Certo. Esatto. E quindi si possono perdonare, anzi, penso che incentivare per certi aspetti. Ad averne. Grazie Flavio Vannetti. Grazie a voi. Grazie a Flavio Vannetti. Dunque abbiamo approfondito la giornata dello sci che chiude anche con la vittoria della slovena Tina Maze nel gigante di St. Moritz. Siamo negli ultimi 10 minuti invece sui campi di Serie A. Io saluto Enzo Bucchioni, direttore del QS. Ciao Enzo. Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio, ciao. Allora, rapidamente il riepilogo: Juventus che sta vincendo per 1-0 a Palermo, decide fin qui il gol di Lichtsteiner, Palermo che è in 10 uomini per l'espulsione di Morganella, e poi il Milan che sta conducendo 4-2 a Torino, Santana, Robinho, Nocerino, Pazzini, El Shaarawy e Bianchi, 1-0 del Chievo a Cagliari, rete di Paloschi, la quinta nelle ultime 5 giornate, e poi il Pescara che conduce 2-0 sul Genoa, ha bruscato e Vukušić, e il Catania che vince 3-1 a Siena, Rosina e poi Castro e doppietta di Bergessio. Mi sembra di poter dire, Enzo, intanto che la partita della Juventus sia forse l'unica ancora aperta, almeno dal punto di vista del risultato. C'è anche Cagliari-Chievo, però è anche vero che è aperta perché la Juventus fin qui non l'ha chiusa, malgrado le occasioni, ed è molto rischioso arrivare negli ultimi minuti con situazioni ancora non risolte. Sì, hai ragione, è strano che la Juventus non abbia chiuso questa partita, non è da Juventus, vorrei dire, perché una squadra così matura, che in genere colpisce nel momento giusto e si trascina con questo risultato. È vero che sta gestendo la partita, che è un uomo in più, non voglio dire dominando, ma sta tenendo il ritmo che piace a lei, però quando di fronte hai una squadra con giocatori come Miccoli e Brienza che ti possono inventare qualsiasi cosa a qualsiasi momento, c'è sempre un po' di tensione, anche se mancano pochi minuti. Insomma, sì, la partita non è chiusa, apparentemente chiusa. Sì, anche perché nel primo tempo, per quanto dominato dalla Juventus, il Palermo in un paio di occasioni si è visto, ha messo paura, Miccoli aveva trovato anche la porta, azione però viziata da un fuorigioco, ma questo a significare che è un avversario, il Palermo, che non va mai considerato morto. Cosa ti è sembrato, e intanto c'è il raddoppio del Chievo a Cagliari, quindi 2-0 del Chievo contro il Cagliari, cosa ti è sembrato Conte in questa prima giornata, seguito dalla Conte Cam? Ma mi è sembrato invecchiato, devo dirti, guardavo, ti parlo di un aspetto fisico e non calcistico, evidentemente questi mesi lui, come ci ha fatto dire dai suoi amici, dai suoi dintorni, da tante situazioni, li ha patiti molto, veramente l'ha vissuta con una grande ingiustizia, e io vedo un volto diverso da quello che abbiamo lasciato, molto meno solare. Ha detto questo, lo vedo dentro la partita come sempre, la Juventus ha pagato molto l'assenza del suo allenatore, anche se non nei risultati, ma proprio nella gestione delle partite, è l'uomo in più in campo, psicologicamente vuol dire molto avere un allenatore così, per una squadra che è stata gestita fin dal primo minuto l'anno scorso, dal primo momento del raduno, proprio mentalmente dall'allenatore, quindi il suo ritorno in panchina darà sicuramente una spinta in più a questa squadra, sia in campionato in questo momento e poi quando tornerà anche alla Coppa. Però questo aspetto umano mi ha molto fatto pensare. Sì, io l'ho visto inquadrato dalle telecamere di Sky prima della partita nello spogliatoio, a un certo punto si è come isolato nello stanzino dei massaggi, io non credo a cercare concentrazione perché immagino che Antonio Conte aspettasse questo momento da 4 mesi e quindi avesse bisogno di tutto tranne che di concentrazione, forse però proprio a fare i conti con quello che sono stati questi 120 giorni per lui, è stata, e lo dico, una scena abbastanza umana, al di là poi del giudizio che ciascuno dà della sua squalifica e della vicenda processuale legata a questa accusa di omessa denuncia. Sì, è l'aspetto umano anche secondo me quello che colpisce di più, perché ripeto, tanto nel calcio ognuno rimane della sua opinione, anche quando arrivano delle sentenze, quando ci sono passate addirittura in giudicato, vediamo la vicenda Calciopoli, ognuno resta della sua idea, quindi ognuno se la tenga anche in questo caso, però se l'aspetto fisico delle persone conta e lo specchio è dell'anima, gli occhi sono lo specchio dell'anima, io vedo un uomo sofferente, ecco, evidentemente da qui non voglio dedurre che è innocente, però sicuramente questa cosa l'ha pagata. La sofferta. Sì, l'ha pagata profondamente, ecco, quindi una presunzione di innocenza, diamogliela. Enzo, ti chiedo un minuto di pazienza, ci sono le notizie sul traffico e poi una brutta notizia per i tifosi del Milan. Traffico. E allora vi ricordo i contatti per dirci che cosa ne pensate della prima di Conte sulla panchina della Juventus, ma anche della vittoria del Milan che sta maturando 4-2 a Torino, e poi vi diciamo della brutta notizia. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i messaggi SMS, oppure su Twitter @CapuanoGio o su Facebook a tempo di sport-radio24. La brutta notizia resa ufficiale dal profilo Twitter del Milan. De Jong, che è stato costretto ad uscire al 20° del primo tempo sostituito da Ambrosini per infortunio. Ebbene, si tratta di un infortunio davvero serio, direi drammatico, perché De Jong ha riportato la rottura del tendine d'Achille sinistro e quindi, pur senza volersi sostituire ai medici, l'impressione è che la stagione dell'olandese possa essere conclusa con questo pomeriggio di pioggia a Torino. Milan invece, mi sembra, Enzo, al di là delle polemiche, poi ne parleremo dopo le 17 con Graziano Cesari perché c'è molto da dire sulla partita fra Torino e Milan, mi sembra però che abbia finalmente trovato una sua continuità di rendimento. Sì, assolutamente, ha trovato una continuità di rendimento, ma anche una personalità che non aveva, un'autostima, diciamo anche questo. La squadra ora sa quello che vuole, sa come giocare, ha dei movimenti che vengono a memoria, cose che non esistevano nella prima parte della stagione, continuando a giocare allo stesso modo, anche se cambiano gli interpreti, i risultati ci sono stati. Oggi fra l'altro andati in svantaggio, ha dimostrato anche di avere personalità, come dicevo, perché non era facile ribaltare il risultato su un campo. Il Toro di solito oggi ha giocato malissimo, di solito è una squadra che in casa si è sempre fatta valere, quindi forse Allegri ha visto giusto. Ieri mi sembrava una frase un pochino presuntuosa dire a marzo ci ritroverete in corsa per lo scudetto, però evidentemente Allegri ha visto grandi motivazioni ritrovate nei suoi giocatori, un gruppo che si è ricompattato, la qualità c'è, poi quando hai un giocatore come El Shaarawy che fa tutto, anche oggi l'ho visto tornare anche in difesa, veramente un ragazzo straordinario, ha avuto una maturazione incredibile anche dal punto di vista tattico, torna, aiuta la squadra, fa gol. Un campioncino veramente che dobbiamo guardare con grande attenzione. Sì, un po' presuntuosa la frase, più che altro per come sta andando la Juventus, perché il Milan può anche pensare di mettere insieme una striscia di risultati utili, però è anche vero che se la Juventus va a questo ritmo e quella di Pescara eventualmente è comunque una vittoria davvero pesantissima, io credo sia difficile per Inter e Napoli pensare di poterlo tenere quel ritmo, figuriamoci per chi come il Milan in questo momento è staccatissimo. Io non sono propenso ad enfatizzare l'importanza delle visite di Berlusconi a Milanello, però è anche vero, perché poi ci sono sotto probabilmente anche discorsi che sono legati ad altre logiche che portano a quello che accadrà nei prossimi mesi nella politica italiana e quindi anche a una necessità di visibilità, però è innegabile che il riavvicinamento di Berlusconi al Milan ha fatto bene ad Allegri e io credo anche a Gagliani, che ha trovato una sponda per le sue scelte e dopo mesi non ha più dovuto giustificare da solo quelle che poi erano logiche societarie assolutamente condivisibili, ma che erano state spiegate male quest'estate. Ma sì, assolutamente, intanto il padrone, come diceva un vecchio proverbio che non sto a ripetere, ma l'occhio del padrone se ci vuole sempre nell'azienda, il Milan è un'azienda, quando arriva un personaggio che oltre ad essere il padrone poi ha una grande, un grande carisma, e poi ricordiamolo, l'ha sempre detto, lui era l'allenatore dell'Edil Nord, quindi farà anche l'allenatore del Milan, nella sua testa lo fa, darà anche qualche consiglio, e poi come dicevi tu sicuramente è l'ombrello questo Milan, si è assunto le sue responsabilità, ha spiegato che i soldi sono finiti, bisogna gestire con quello che c'è e comunque bisogna cercare di fare al meglio in questa situazione, perché i giocatori comunque ci sono, ha creato un circuito virtuoso, ha sentito la squadra, l'allenatore, anche la vicinanza del presidente, ricorderete anche i tanti discorsi fatti, le tante parole scritte, Berlusconi vende, arrivano gli arabi, arrivano i cinesi, quando c'è una destabilizzazione di questo tipo la squadra ne risente immediatamente, evidentemente Berlusconi è andato lì, ha messo dei punti fermi in questa stagione e anche sul futuro del Milan, i risultati sono subito visti. Non c'è dubbio, con questo abbiamo risposto anche a Sebastiano che ha scritto al 349-238-6666. Per chiudere, Enzo, ti faccio sentire Montella ieri dopo la sconfitta all'Olimpico 4-2 contro la Roma, lanciare qualche messaggio alla dirigenza giallorossa, sentiamolo. Ha mantenuto buoni rapporti con Baldini visto che vi siete salutati alla fine? Per me sì, ho provato a chiedere a lui, ma non è successo assolutamente nulla, si è creato tanto. Diciamo che talvolta alcuni dirigenti sono bravi a dire ciò che fa comodo a loro, hanno più di filo diretto con i giornalisti, mediaticamente sono bravi e talvolta si tirano in mezzo delle storie che non esistono, anche volutamente, ma non da parte vostra, voi fate il vostro lavoro. Quindi non è stata raccontata tutta la verità su quello che è successo in estate, in che senso che... Ma che è successo? Parliamo un attimo. Ah no, perché dicevo alcuni dirigenti sono più bravi mediaticamente. No, no, non lo so, visto che faceva riferimento ai dirigenti che insomma sono più bravi a intrattenere relazioni. Sì, perché sono venute fuori tante storie e alcune le hanno raccontate loro. Semplicemente questo, perché gli faceva comodo. Non mi riferisco a Baldini, dai, or chiudiamola. Oh, mi sembra che abbia più di un sassolino da tirarsi via dalla scarpa. Intanto è finita Palermo e la Juventus ha battuto 1-0 il Palermo. Enzo? Ma sì, sicuramente è vero che ne sono state raccontate tante. Io ne posso dire due che ho sentito, che Montella voleva troppi soldi di ingaggio e la Roma era pronto a offrirgli delle briciole. Un'altra che aveva chiesto... Sì, retroscena ha scritto anche ieri sulla Gazzetta dello Sport, offerta metà del contratto di Luis Enrique della stagione precedente. Sì, un'altra che avrebbe chiesto la cessione di Lamela, con giocatori con la qualità, sfido chiunque a credere a questa versione perché Montella vuole tutti i giocatori di buona qualità, almeno nella Fiorentina. E quindi e probabilmente avevano fatto già altre scelte, avevano puntato su Zeman e nessuno l'ha voluto confessare in quel momento. Sì, diciamo che probabilmente l'hanno incontrato senza troppa convinzione, ma al di là dei soldi, al di là della storia di Lamela, magari Montella ha percepito in un'ora, perché tanto è durato il suo colloquio, che era una storia che non poteva rinascere. Sì, a volte succede nella famosa storia che qui del profeta in patria, che non l'ha mai nessuno, ma poi anche una questione di rapporti, dello spogliatoio, uno che fa l'allenatore, ha giocato tanti anni nella solita squadra, può aver lasciato qualcosa che non torna, non lo so, anche se secondo me quei mesi che ha fatto in panchina con la Roma, al di là del Catania, Montella aveva già mostrato di essere un allenatore potenzialmente importante, ma poi ogni società fa le sue scelte, basta essere chiari. Ecco, questo è mancata la chiarezza in questa situazione, evidentemente c'erano delle cose che in quel momento i dirigenti della Roma non volevano dire alla tifoseria, che era sempre un po' calda. Poi queste frasi sono venute fuori anche nel momento più difficile di Zema, quando Montella è stato rimpianto, quindi nel calcio sappiamo che queste storie sono sempre all'ordine del giorno. Una cosa certa è che ieri sera abbiamo visto una partita davvero bellissima. Esatto. Così come bellissimo è stato oggi il derby di Manchester, lo ha vinto lo United per 3-2 all'ultimo respiro con Van Persie, vinceva 2-0 doppietta di Rooney, poi la rimonta del Manchester City 2-2 con Balotelli sostituito sul 2-0, che se n'è andato negli spogliatoi senza degnare di uno sguardo Mancini, e quindi ancora polemiche a Manchester. Io ringrazio e saluto Enzo Bucchioni. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Grazie Enzo, sono finite allora tutte le partite, rapidamente il riepilogo dei risultati. Ha vinto la Juventus, che è sempre prima, quota 38, ha vinto 1-0 a Palermo, gol di Lichtsteiner. Poi il successo del Milan, 4-2 a Torino, e poi successi esterni anche per il Chievo, 2-0 a Cagliari, e per il Catania 3-1 a Siena, Pescara-Genoa 2-0, Genoa che è penultimo, dietro ha soltanto il Siena, che partiva però con 6 punti di penalizzazione. E credo che in questo pomeriggio dovremo fare molta attenzione anche alla situazione di Gigi Del Neri. Per lui è la 7ª sconfitta in 8 panchine con il Genoa, e chissà che Preziosi non abbia voglia di cambiare. Evidentemente non gli ha portato bene sostituire De Canio. Noi ci fermiamo, 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Lo facciamo tra qualche minuto dopo il GR, e avremo anche la moviola ricchissima di Graziano Cesari. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, anche per parlare della moviola, che iniziamo con Graziano Cesari. Ciao Graziano. Ciao, buonasera a tutti. Moviola ricchissima oggi, perché ci sono stati alcuni episodi, soprattutto nelle due partite più importanti. Prima di addentrarci nell'analisi, io dico subito che De Marco, secondo me, ha arbitrato benissimo con i suoi collaboratori, ma poi ne parleremo, mentre è stato un mezzo disastro quello di Romeo a Torino per Torino-Milan. Sono assolutamente d'accordo, De Marco su un campo reso impossibile da una grandissima grandinata ha arbitrato molto molto bene, pochi gli errori e tutti molto molto geniali. Ben più invece infelice la direzione di gara di Romeo, dove pesano parecchio tanti errori. E allora li andiamo a vedere, ovviamente Graziano, e lo dico anche agli amici a casa, pronti a sentire le prime parole di Antonio Conte, 4 mesi dopo la squalifica, dopo 4 mesi praticamente di silenzio, lo stiamo aspettando ai microfoni di Sky Sport da Palermo. Io direi di iniziare invece da Torino-Milan, che mi sembra la partita con più errori, insomma quella che merita di essere analizzata con maggiore attenzione. Cominciamo al 20° del primo tempo, c'è una palla gol del Milan, una palla gol di El Shaarawy che non trova la porta, ma che nasce da una situazione, mi sembra, di netto fuorigioco di Pazzini. Esatto, è proprio fuorigioco di Pazzini, che non è rilevata dall'assistente De Luca. Poi il tiro, fortunatamente per la direzione di gara di Romeo, il tiro di El Shaarawy esce fuori, ma un fuorigioco non segnalato dall'assistente, quando la linea difensiva del Torino era salita nettamente, partite oltre un metro e mezzo rispetto alla linea difensiva del Torino. Sì, meno male che non ha segnato il Sharawi, perché altrimenti le polemiche si sarebbero sprecate una settimana dopo i fatti di Catania. Esatto. Poi io mi sono segnato al 13° del secondo tempo, il risultato è in quel momento di 2-1 per il Milan, perché il Milan ha appena trovato il gol del 2-1 con Nocerino. C'è una trattenuta di Yepes su Rolando Bianchi in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo, se ne vedono tante, però è anche vero che mi è parsa una trattenuta abbastanza prolungata. È prolungata, plateale, direi, dall'esterno del corner si vede proprio Yepes che si disinteressa completamente del pallone e cerca solamente di bloccare l'attaccante del Torino. In questo caso la trattenuta è vistosissima, perché la maglia si alza e vediamo che la sottomaglia di Bianchi è dello stesso colore della maglietta. Grave errore questo, perché per aiutare il direttore di là in queste trattenute si poteva avere benissimo una sottomaglia di altro colore. Certo, quindi questo era certamente calcio di rigore. Due minuti più tardi c'è il gol del 3-1 del Milan, quello che di fatto chiude la partita, ed è un gol di Pazzini sul quale protestano tantissimo i giocatori del Torino, viene anche ammonito Glick. Proviamo a raccontarlo, Graziano. È l'ingresso in area di Pazzini con Masiello che gli ruba il tempo, lo spazio, e quindi gli si para davanti. A questo punto Pazzini tocca col piede destro, tocca il sinistro, il tallone di Masiello che cade a terra. Pazzini continua il gioco e trafigge Gillet, azione da interrompere nel momento in cui Pazzini non poteva assolutamente prendere il pallone per la presenza del giocatore del Torino davanti. In questo caso è responsabile anche di questa situazione l'arbitro di porta Bergonzi, che non ha segnato nulla al direttore di gara. Certo, certo, che poi dopo ovviamente circondato dai giocatori del Torino decide di ammonire, a quel punto io credo legittimamente, perché le proteste sono forti, però in cima a tutto c'è l'errore. E poi c'è nel finale, il punteggio è di 4-2 per il Milan, un sospetto mani di Ambrosini. Più che sospetto è un mani di Ambrosini, perché Ambrosini interviene disperatamente alzando il piede, facendo un salto, però con le mani, tutte e due le mani protese in avanti. Il pallone si tocca il piede, quindi potrebbe essere un effetto carambola. Ecco, ma ci potrebbe essere l'effetto carambola, che spesso viene interpretato dagli arbitri come un attenuante in grado di cancellare l'esistenza di un calcio di rigore, di un fischio. Da quest'anno lo sappiamo benissimo che l'effetto carambola non è più vincolante ai fini della decisione di valutare l'involontarietà. È chiaro che il comportamento di Ambrosini con queste mani davanti è molto sospetto. Sì, sarebbe necessario, io credo, fare un po' di chiarezza da questo punto di vista, perché da quest'anno è cambiata l'interpretazione di quella norma, però è anche vero che molto spesso viene naturale rifarsi a quella precedente, che più o meno era entrata ed era stata compresa da tutti. Oggi questa norma è cambiata e quindi il fallo di mani di Ambrosini nel finale di Torino-Milan era un fallo di mani da rigore. Hai visto invece ieri Wolfgang Stark fare ammenda davanti alle telecamere, davanti ai giornalisti, per l'errore clamoroso in Borussia Dortmund-Wolfsburg? Sì, l'errore clamoroso, perché chiaramente ha espulso Schmelzer per un fallo di mano compiuto sulla linea di porta, quindi come ultimo difendente ha concesso un calcio di rigore assolutamente inesistente, perché non c'è questo fallo di mano. E poi diciamo così che l'azione è iniziata in precedenza, in preparazione, anche da un offside non segnalato su Verigna, quindi direi Wolfgang Stark ha combinato veramente grossa, tant'è che ha fatto imbufalire tutto il pubblico del Luna Park, e da lì è iniziata la rimonta del Wolfsburg. Poi alla fine della partita ha sbagliato, ma è troppo facile non aver collaborato giustamente. Però apprezziamo la missione di errore del numero uno tedesco in questo caso. Sì, io l'accetto e l'accetto con piacere. Mi piacerebbe ci fosse anche in Italia, dove invece non più tardi di un paio di settimane fa Nicky e Braschi ci hanno spiegato che non si può perché il clima è troppo avvelenato. Invece io credo ad esempio che oggi, se Romeo spiegasse semplicemente e umanamente di aver sbagliato, probabilmente ci sarebbero meno polemiche di quelle che magari mi sbaglio, ma ci saranno a Torino quando si presenterà Ventura davanti ai microfoni. Sta per parlare Max Allegri ai microfoni di Sky Sport, e allora vediamo di intercettare le sue prime parole. 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Se tutte queste cose fossero successe alla Juventus, sareste invasi di telefonate scandalizzate su strani disegni pro Juve, invece non sta accadendo nulla. Carmelo da Milano, sentiamo Allegri. Seguito a quelle due precedenti, Siamo andati sotto anche oggi, purtroppo su un errore tecnico. Poi la squadra è stata brava a trovare il pareggio e a meritare la vittoria. Credo che potevamo fare anche un pochino meglio nel primo tempo a livello tecnico, un po' più di velocità. E così non è stato, però direi che poi dopo alla fine i ragazzi hanno, oltre ai gol, hanno costruito anche due o tre situazioni importanti. Già sullo 0-0 ne avevamo avute un paio e quindi sono contento di quello che hanno fatto. Per noi piano piano ci stiamo avvicinando alle prime sei e soprattutto oggi è una partita importante visto il risultato ieri sera della Roma. L'unica cosa negativa è l'infortunio di Young, che purtroppo sembra che abbia la rottura del tendine d'Achille, quindi questa credo che sia una vittoria che i ragazzi hanno dedicato ai suoi compagni. Sì, davvero brutto l'infortunio di Nigel De Jong, rottura del tendine d'Achille della gamba sinistra. Io penso di poter prevedere la stagione finita per l'olandese. Torniamo invece sulla Moviola con Graziano Cesari. Prima di analizzare Palermo-Juventus, vediamo le altre partite. Cagliari-Chievo 0-2. Nel primo tempo, dopo 9 minuti, c'è un gol annullato al Chievo. Siamo ancora sullo 0-0. Posizione di fuorigioco. Posizione di fuorigioco nettissima, è davanti il giocatore del Chievo alla linea difensiva, diciamo comunque una segnalazione molto facile da parte dell'assistente Grilli, è un'azione statica, quindi nessuna difficoltà nella rivelazione dell'infrazione. Non ho segnato null'altro su questa partita, mi sembra ben diretta da Carmine Russo, che quindi promuoviamo con un bel 6,5. Pescara-Genoa 2-0, invece, da verificare la posizione di Weiss sull'azione del gol dell'1-0 del Pescara. Siamo al settimo minuto del secondo tempo. Weiss poi confeziona l'assist per Abbruscato, che solo a porta vuota mette dentro la palla dell'1-0. È una posizione assolutamente regolare, c'è cioè la linea difensiva del Genoa composta da Sampierisi e da Gankis, tiene in gioco l'attaccante del Pescara, che poi successivamente può servire a Buscato per la deviazione in rete, per la vincente. E anche in questo caso era l'unico episodio che ho segnalato per Pescara Genoa. Perché era lento dopo i noti fatti di Catania in questo caso. E quindi noi vogliamo sottolinearlo perché Maggiani è stato massacrato dopo l'errore di Catania. È giusto anche dire che in questo caso è stato perfetto nella sua segnalazione. Era l'assistente di sinistra di Celi. A Siena Catania 1-3. C'è nel primo tempo, intorno alla mezz'ora, sull'1-0 per il Siena, una trattenuta anche in questo caso mi è parsa abbastanza prolungata di Neto su Berghessio del Catania, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poteva starci il rigore? Poteva starci il rigore, tant'è che l'attaccante del Catania cade a terra e cerca con lo sguardo il direttore di gara Doveri, proprio lo cerca chiedendogli insistentemente perché non ha fischiato, ma a mio parere ci stava tutto il calcio di rigore. È sembrato anche a me. E poi in occasione della rete del 2-1 del Catania di Berghessio, da verificare proprio la posizione di Berghessio, in sospetto fuori gioco. Sentiamo intanto se c'è Allegri, stanno facendo vedere l'episodio del gol di Pazzini. Ma credo che in questo momento la squadra abbia bisogno un po' più di presenza in aria, e soprattutto oggi col Torino che giocavano, immaginavo che giocassero molto bassi, senza avere perlomeno un punto di riferimento, un uomo che ci dà un po' di fisicità e che occupa l'aria, sarebbe stato un vantaggio, e così è stato. Poi ci sono delle partite in cui magari c'è bisogno un po' più di manovre. Questa è la scelta di Pazzini da parte di Allegri. Stavamo chiudendo la Moviola, Graziano, di Siena a Catania, quindi da verificare la posizione di Berghessio sul gol del 2-1. La posizione di Berghessio è assolutamente regolare, molto, molto bravo in questo caso l'assistente Crisp. Non è una segnalazione facile perché la velocità di reazione poteva portare per movimento dinamico a un'interpretazione assolutamente diversa, invece la buona posizione dell'assistente gli permette di controllare che Berghessio sceglie il tempo giusto nell'inserimento. Sì, e quindi lo promuoviamo, così come sottolineiamo, ma era oggi scritto sui giornali, l'errore invece ieri degli assistenti di Banti in Roma-Fiorentina sul gol annullato a Marquinhos. Abbiamo un minuto di traffico, Graziano, e poi entriamo nella Moviola di Palermo-Juventus, arbitrata bene, e lo diciamo ancora, da De Marco e dai suoi collaboratori, ma con un episodio che merita di essere ripercorso. Traffico. Ma cosa dite? Gli errori a favore del Milan non li ha commessi la Juventus, quindi le polemiche sarebbero durate soltanto 10 minuti e non 10 mesi. Massimo, il 349-238-6666. E vabbè, insomma, ognuno la pensa come vuole, Graziano. Sì, assolutamente sì, credo che sia proprio questo però del calcio. Ognuno abbiamo delle interpretazioni e delle idee assolutamente diverse. Certo che in certe situazioni non possiamo non dire che non ci sono i calci di rigore, gli arbitri non sbagliano, perché sono talmente evidenti. Mi fai sentire Allegri su Balotelli? Certo. Se deve entrare qualcuno dentro, bisogna che per forza vada via qualcuno, perché altrimenti veramente siamo troppi. Non c'è posto nello spogliatoio. Quindi la priorità, scusa, no, Max, nello spogliatoio non c'è posto. Diventa il centrocampista adesso rispetto, sì, ai Pastore, ai Balotelli, tutti i nomi che abbiamo sentito di ruoli offensivi. Adesso con l'infortunio di De Jong diventa la priorità un centrocampista? No. No, perché abbiamo il rientro di Muntari, sperando che rientri velocemente nella condizione ottimale per giocare, che può giocare tranquillamente alla difesa. Ambrosini ha fatto una buona partita, con Flamini, caratteristiche diverse. Flamini più da mezzala, sì, davanti alla difesa. Flamini, sì, ne hanno tanti di centrocampisti, però l'impressione, Graziano, che l'infortunio di De Jong costringerà il Milan a rivedere un po' le strategie di mercato. Assolutamente in vista di Flamini in panchina oggi non è stato utilizzato, insomma ci sono tante altre situazioni. Certo che se il Balotelli è quello che abbiamo visto per 51 minuti nel derby di oggi, insomma non c'è dubbio. Tra l'altro Balotelli che è uscito senza salutare Mancini, con un accenno evidentemente polemico dopo la sostituzione. Apriamo la pagina di Palermo-Juventus invece, tantissimi gli episodi. Allora cominciamo al nono del primo tempo, c'è un po' di confusione in area del Palermo con una trattenuta di Muñoz su Matri, c'è il fischio di De Marco che alla fine decide di ricominciare con una palla scodellata. E qui diciamo bravo a Matri, è stato proprio Matteo, il giocatore della Juventus, a dire a De Marco l'ho vista io. Certo che è impossibile per il direttore di gara poter vedere questo calcio di punizione, è stata un'intuizione assolutamente forzata questa del direttore di gara, perché il corpo sia di Matteo che di Mugno sottoputtava la palla, quindi è andato per intuizione e ha sbagliato. Meno male che Matri ha detto no, non sono stato io, quindi è stato semplicemente ripreso il gioco con uno scodellamento, come si dice nel gergo calcistico. Certo, poi al 19esimo un gol del Palermo, un gol di Miccoli annullato per una posizione di fuorigioco. E devo dire che è stato bravissimo l'assistente Marzalloni, che non si è fatto tradire dal movimento di Miccoli retroattivo, ma ha captato bene la sua posizione, ha intuito molto bene la sua posizione. Chiellini era l'ultimo, Miccoli era al di là del difensore della Juventus. E poi poco dopo la mezz'ora un gol della Juventus, in realtà un gol a gioco fermo, annullato per una posizione irregolare di Vucinic, che è l'uomo che poi fornisce l'assist. Assolutamente sì, anche in questo caso molto bravo l'assistente, non c'è nessun dubbio sulla posizione irregolare. Così come è regolare la posizione invece di Vucinic sul rimpallo, poi Vucinic colpisce il pallone e colpisce il palo. Siamo al 37esimo del primo tempo, l'arbitro e l'assistente fanno proseguire e fanno bene. Eh sì, perché sono situazioni molto molto difficili, di estrema velocità e estrema concentrazione, e quindi sia assistente che arbitro collaborano molto molto bene. Proprio questa è la difficoltà, la velocità dell'azione e le posizioni estremamente vicine di attaccanti e difendenti. E questo per dire che nel primo tempo De Marco e i suoi assistenti sono praticamente perfetti. Poi si arriva nella ripresa e qui c'è l'episodio che volevo analizzare con te, Graziano. Arriva proprio 30 secondi prima del gol di Lichtsteiner, quindi del gol vittoria della Juventus, c'è un tocco spalla braccio di Pirlo all'interno della propria area di rigore. A me è sembrato calcio di rigore, anche se evidentemente non c'è una situazione di pericolo in quel momento per allora, la Juventus. Cominciamo ad analizzare, c'è un fallo di mano, sicuramente sì, di Pirlo, c'è un fallo di mano volontario, sì, perché il braccio si stacca dal corpo e fa proprio un movimento come addomesticare il pallone. È calcio di rigore oppure no? Allora, ti devo dire che è tutto avvenuto fuori dall'area di rigore. Fuori dall'area di rigore. Fuori quindi. Dall'area di rigore, quindi solamente una punizione con un giallo mancato per Pirlo. Quindi diciamo le immagini ingannano, perché a vedere diciamo l'azione a velocità normale e anche, ti dico la verità, il primo replay, però poi probabilmente ci si è soffermati soprattutto nei replay dal basso per cercare di capire se aveva colpito la palla di spalla o di braccio, sembrava all'interno dell'area di rigore. Mi dici che quell'episodio è avvenuto all'esterno dell'area di rigore. Fortunatamente noi avevamo la telecamera, quindi dico che anche noi ci abbiamo messo molto tempo. Certo, telecamere di Mediaset Premium. Certo. Appena ci sono delle immagini dei 16 metri, ti posso anticipare che era pochi centimetri fuori dall'area di rigore, ma sicuramente non era calcio di rigore. E guarda, siamo contenti tutti, perché così possiamo dire che De Marco ha fatto grande slam insieme, sì, ai suoi assistenti. Andiamo avanti sugli altri episodi. 29esimo del secondo tempo, l'espulsione di Morganella. Beh, devo dire che non c'è nessun problema da questo punto di vista da parte del direttore di gara, molto deciso. Il primo fallo non si discute assolutissimamente, ma non si discute neanche il secondo fallo sulla Samoa. Improvvido, negligente il difensore di Gasperini. Assolutamente. Poi alla mezz'ora, anzi al 33esimo, un gol della Juventus di Bentner annullato. Beh, assolutamente, questa è la posizione assolutamente di fuori gioco. Devo dire che Bentner poi sulla conclusione ha tirato lo stesso. E qui mi sarebbe piaciuto vedere un cartellino giallo, ma non si può essere la perfezione. Certo, e poi per chiudere, siamo proprio negli ultimi istanti della partita, c'è un'ammonizione per Bonucci che si era trasformato in attaccante solo davanti al portiere del Palermo, va giù, ammonito per simulazione. Io mi permetto di contestarla, questa è l'unica contestazione che faccio a De Marco, perché sicuramente c'è un contatto con i cani, certamente non un contatto per la concessione di un calcio di rigore, però probabilmente è tanta l'accentuazione del difensore centrale della Juventus, cioè della nazionale, che ci lascia cadere praticamente e trae l'inganno il direttore di gara. Sì, perché la caduta di Bonucci è assolutamente innaturale, dobbiamo dirlo. Sì, con queste mani alzate che sembrava che cosa... Niente, non è il rigore, ma non è neanche simulazione. Sì, non c'è dubbio. C'è un amico che ci ha chiamato all'800240024, Franco da Mantova, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Volevo chiederle... Intanto Ventura non parlerà, però pare non per protesta per gli errori di Romeo, ma perché non sta molto bene, penso e spero, soltanto un'influenza. Comunque approfondiremo. Prego, Franco. Prende un'aspirina, no? Qualcosa del genere. Vabbè, insomma, può anche saltare la conferenza stampa serenamente dopo aver svolto il suo lavoro in panchina. Ventura, esatto. È già successo, quindi... Cioè, anche male alla schiena. Esatto, assolutamente. Franco, prego. Ascolti, due cose rapidissime. Sì. Io sono un po' in Italia, un po' in Austria, quindi non seguo. Volevo solo chiederle, innanzitutto, una cosa che riguarda il mercato della Juventus, che secondo me avrebbe bisogno, anche se non sono un esperto, comunque di qualche puntello in difesa e forse uno a centrocampo più che all'attacco. Certamente ne avrà bisogno uno in difesa se parte Lucio, almeno in proiezione della Champions League, perché Bonucci, Barzagli e Chiellini non hanno praticamente un cambio, quindi io credo che lì la Juventus dovrà intervenire. Prego. E poi un'altra cosa, come mai all'estero si parla tanto di questa famosa sentenza del TAR a proposito della richiesta ad anni della Juventus, che sarebbe data per imminente, fra l'altro da quello che mi risulta, qui dico e qui nego, ma di solito è più facile che possa dire, sarebbe nettamente favorevole alla Juventus. L'attenderemo, Franco. Io credo che in Italia non se ne parli semplicemente perché questa sentenza non c'è. Poi il momento in cui ci sarà, le garantisco che credo si scriveranno fiumi d'inchiostro su quella sentenza, soprattutto se sarà una sentenza a favore della Juventus, perché credo significhi in automatico la bancarotta per la Federcalcio, e quindi attendiamo con impazienza per poterne parlare, per poterla commentare senza alcun problema. Però se non se ne scrive, mi creda, io penso che è perché è difficile giocare la schedina su cose così delicate come la sentenza di un TAR. Graziano, per chiudere, prima di ringraziarti e darti l'appuntamento settimana prossima, questa sera Inter-Napoli con Rizzoli, era il miglior arbitro possibile? No, ti devo dire di no, perché in questo ultimo periodo Rizzoli ha sbagliato molto. Sì, però ne stanno rimanendo davvero pochi, Va bene, stanno rimanendo molto pochi, però bisogna dare l'opportunità anche a altre persone, altri arbitri che in questo momento fanno bene, di provare ad arbitrare grandissime partite. Io non nego che Rizzoli mercoledì scorso ha fatto una grandissima partita in Portogallo in Champions con Braga Galatasaray ed ha arbitrato molto bene, ma è un Rizzoli totalmente diverso da quello che appare in campo allo stadio. In campo internazionale è molto sereno, molto tranquillo, qui probabilmente non riesce a sopportare la pressione. Certo, non dobbiamo dimenticare che il suo curriculum è di estremo prestigio. Intanto è arrivato Conte, grazie Graziano. Grazie a voi. È arrivato Conte con Graziano Cesari e la Moviola. L'appuntamento è per settimana prossima. Sentiamo Conte. Ho detto, pensare che mi potevate mancare, onestamente, invece mi siete mancati. Beh, non sia così. Quindi, carino subito, non... Antonio, la prego. No, subito con le carinerie, perché non ci siamo abituati. Va bene, bentornato. Peraltro a Sky Calcio Show gli applausi non partono così sovente, invece evidentemente il pubblico, rispetto alla sua presenza in panchina, sente insomma il suo ritorno. Allora io voglio sapere subito la domanda più banale, ma è quella che vogliono sapere tutti. Le emozioni. Le emozioni di Antonio Conte nel giorno del ritorno. Un modo di calcare quel campo diverso per lei dopo tutto questo tempo? Ma è inevitabile che quando ti viene a mancare il terreno di gioco, il profumo dell'erba, come l'ho definito 3-4 settimane fa, è un dolore, ti manca qualcosa, anche se lavori con la settimana, lavori con la squadra per tutta la settimana, però i 90 minuti, 95 minuti, la partita, quelle sensazioni, emozioni mancano, però ho dovuto affrontare questa vicenda e penso che sia stata comunque formativa sotto tanti punti di vista. Penso che la squadra abbia risposto in maniera straordinaria, io voglio ringraziare i giocatori, perché se, secondo me chi riesce a fare in 4 mesi quello che abbiamo fatto noi, significa che io ho dei giocatori speciali, speciale la società, forse un po' speciale sono anche io, ecco. Allora, questo è il primo Conte dopo il ritorno dalla lunga squalifica, un Conte che dunque ha detto: è stato un dolore restare fuori, non poter sentire l'odore dell'erba nella giornata della partita. La squadra ha risposto in maniera straordinaria alla mia assenza, siamo speciali, sono speciale anch'io. Sentiamo ancora Conte. Le partite sono mancate tutte, ti dico molto sinceramente, però ho anche la fortuna di avere uno staff che ringrazio, perché sia Massimo prima che Angelo dopo sono stati molto bravi nel sostituirmi in quei 95 minuti quando c'era comunque da dare delle direttive alla squadra. Il fatto che ci sia tra di noi grande simbiosi, grande partecipazione durante la settimana ha permesso, ecco, che questo venisse effettuato nella maniera migliore. No, le avrei giocate, le avrei vissute tutte indistintamente, ecco, perché lui le gioca, sia le quelle partite, in cui capito. Si è vinto, sia quelle in cui si è vinto che in quelle me abbiamo perso. Sulla partita di oggi invece sentiamo il giudizio sulla partita di oggi di Conte, poi meteo e pubblicità. Sentiamo però Conte sulla vittoria della Juventus a Palermo, vittoria che porta la Juventus a quota 38 più 5 sul Napoli in attesa di Inter-Napoli. Cercare di fare gol, perché cioè, più che arrivare davanti al portiere, cercare di tirare la palla in rete, io onestamente non possiamo fare di più. È inevitabile che se avessimo pareggiato questa partita in un calcio d'angolo al 90esimo, penso che saremmo rimasti 2 giorni chiusi nello spogliatoio tutti quanti, avremmo fatto ritiro qui a Palermo, perché quando hai occasione, le occasioni che abbiamo avuto noi di chiudere una partita difficile su un campo difficile come quello di Palermo, dobbiamo essere più cinici, più cattivi, perché dopo una punizione, un calcio d'angolo può rimettere tutto in gioco, e sinceramente dopo la prestazione di oggi lasciare punti a Palermo sarebbe stato veramente un delitto. E con questo possiamo dire che Antonio Conte è tornato. Ci fermiamo, pubblicità, meteo e poi la nostra prima pagina. Conte, che evidentemente non ha parlato per 4 mesi, aveva voglia di quel microfono. Sentiamolo ancora, Sky Sport. Antonio, le voglio chiedere questo prima di salutarlo. È proprio via. Un flash solo per capire se lei sente, perché lei non era ammalato ma era squalificato, come ha detto, no? Vorrei capire se le rimane una macchia proprio rispetto a questa sentenza, cioè qualcosa che sente di dover dire, chiarire, non adesso, ma in generale anche in futuro, su quella vicenda, per come l'ha vissuta, adesso che può parlare. Questa è una domanda interessante. Conte. Ma io penso che tutto quello che avevo da dire l'ho detto e ho anche pagato le conseguenze, perché sono stato deferito, ho pagato anche 25.000 euro in più. Non c'è niente da aggiungere, ripeto, a me 4 mesi di squalifica non hanno cambiato di una virgola il mio pensiero in proposito, ne ho preso atto. Secondo me è una vicenda in cui ne esco fortificato sotto tanti punti di vista, sia da un punto di vista calcistico che da un punto di vista morale. E questo è Conte. Saluto Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo. Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio, bentrovati. Come ti è sembrato il primo Conte? Ma insomma, molto carico certamente, aveva voglia di dire delle cose, l'ho visto anche molto sbracciarsi molto in panchina, fa parte diciamo del suo bagaglio solito, però stavolta forse ancora un pochino in più. Non c'è dubbio. E allora insieme a Matteo Marani apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. Una prima pagina che dice che Conte torna, la Juventus continua a vincere, successo pesantissimo nel fango di Palermo, primato sigillato in attesa di Inter-Napoli. Il tecnico, lo abbiamo sentito, ritrova la parola dopo 4 mesi. Star fuori è stato un dolore, ma la squadra ha risposto in maniera straordinaria alla mia assenza. E poi, se non avessimo vinto qui a Palermo, li avrei tenuti in ritiro. Il Milan non si fa distrarre dalle voci di mercato, continua la scalata, passa a Torino, conquista il 4º risultato utile consecutivo, ora è 7º in classifica. C'è il dramma di De Jong, per lui è rottura del tendine d'Achille della gamba sinistra. Allegri chiude a Balotelli, siamo già in troppi. E infine questa sera la grande sfida di San Siro per trovare l'anti-Juventus, ammesso che esista, Stramaccioni o Mazzarri, uno dei due sfiderà Conte, mentre da Parigi arrivano voci di un accordo trovato tra Snyder e il Paris Saint-Germain di Leonardo e Ancelotti. Matteo Marani, Conte che può serenamente sedersi in poltrona questa sera a godersi la partita tra Inter e Napoli, ne esce lo sfidante, ammesso che esista uno sfidante di questa Juventus, e ho qualche dubbio, vista anche la facilità con cui è passata Palermo, al di là del risultato 1-0 striminzito. Io credo che Conte aspetterà di vedere qual è l'anti-Juve. Certamente la Juve è la squadra, come dire, dominante di questo campionato, direi che l'ha confermato a Palermo, e credo che sfrutterà anche questo momento di pausa della Champions per mettere fieno, e credo che farà parecchi punti la squadra in questo periodo, perché è una squadra che rischia pochissimo, subisce pochissimo. Guardavo questa diga a centrocampo, è veramente straordinaria, e quindi aspetterà di vedere se sarà l'Inter o il Napoli. L'impressione è che in questo momento il Napoli stia meglio dell'Inter, però questo non vuol dire nulla, insomma, è chiaro che in una partita tutto può accadere. Sì, non c'è dubbio, se il metro di giudizio sono le ultime settimane, certamente il Napoli sta meglio dell'Inter. Chi sta bene, al di là degli episodi, ne abbiamo parlato prima con Graziano Cesari, sono episodi che hanno certamente indirizzato, condizionato la partita di Torino, è il Milan, che è 7º in classifica e ha ritrovato un suo colore, mi sembra, anche nel modo in cui Allegri la sta gestendo, perché oggi in fondo gli mancavano Montolivo e Boateng insieme, ha perso dopo poco più di un quarto d'ora De Jong, è andato sotto per un gravissimo errore di Nocerino, eppure, a differenza di quanto è accaduto spesso in questa prima parte della stagione, non si è buttato via. È una squadra che ha acquisito fiducia cammin facendo, ha più forza, i risultati hanno incominciato a darle convincimento e convinzione, dato, se non sbaglio, siamo alla terza vittoria consecutiva. Sì, terza vittoria consecutiva, non succedeva dalla primavera scorsa. Sì, mi pare che anche le alternative, per esempio oggi ha giocato comunque una buona partita Pazzini, Robinho, lo stesso Emmanuel messo a centrocampo, ha funzionato, quindi mi sembra che è una squadra che piano piano trova la sua dimensione, che non era certamente quella di inizio stagione, che era troppo brutta. Adesso l'unico rischio di non eccedere dall'altra parte, cioè di avere troppa sicurezza, ma non credo, secondo me in questa fase qui Allegri è maturato molto, moltissimo, doveva cercare la squadra dopo la fine di un'epoca, e mi pare che la stia trovando. Poi non penso che basterà per arrivare, quindi essere una squadra da scudetto in questa stagione. Ma sì, parlavamo prima con Enzo Bucchioni, sì. Lui definiva un po' presuntuosa la frase a febbraio: ci ritroverete in alto a lottare per lo scudetto, se non altro per come sta correndo la Juventus. Ma io credo che il obiettivo fosse ritrovare la dignità a questo Milan, e questo va dato atto ad Allegri di averlo fatto. Allegri, anche la società, secondo me a un certo punto è subentrato il realismo e hanno capito entrambe le parti che dovevano procedere insieme, e questo è successo. Poi piano piano alcuni giocatori sono cresciuti, però ecco il dato significativo di oggi è che il Milan non è dipendente dai suoi giocatori. Per esempio oggi mancava Montolivo, che è una perdita importante per questa squadra, visto che era stato uno dei migliori in questo ultimo periodo, e però la squadra comunque ha girato. Se posso aggiungere una cosa, prendo il pretesto dell'errore di Gillet, abbastanza, insomma, grottesco, mi sembra che sia stata una giornata macchiata da grandissimi e gravissimi errori dei portieri, perché cominciando da ieri all'Olimpico con Viviano, oggi ancora, quindi mi sembra che sia un po' una crisi in questo momento dei portieri. Sì, c'è un momento certamente di difficoltà. Abbiamo sentito prima Allegri dire che l'infortunio di De Jong non sposta il mercato del Milan a gennaio, è presumibile che De Jong salterà il resto della stagione, perché purtroppo la rottura del tendine d'Achille non è un infortunio di poco conto. Ha chiuso anche all'arrivo di Balotelli, perché ha detto siamo in troppi. Ti sembra che abbia detto la verità, o quello che è successo oggi a Torino in qualche modo costringerà Allegri e Gagliani a ripensare il mercato di gennaio? Ma secondo me il mercato sarà basato sul portafoglio del Milan, che in questo momento non mi sembra così ampio. quindi credo che sarà soprattutto. Però De Jong un sostituto serve, perché dopo le difficoltà iniziali De Jong si stava ritagliando un ruolo in questo Milan. Sì, serve soprattutto se si continua a giocare con questo 4-3-3, con questo modo che comunque richiede al centro un giocatore con forza fisica, di spessore, ecco, credo che almeno un'alternativa importante ci voglia, quindi come logica sì, però è un momento di grande difficoltà per i nostri club, quindi mi aspetto qualunque cosa, cioè mi aspetto anche che magari il Milan non ce la faccia in questo momento a fare un investimento forte sul mercato. Sì, non c'è dubbio. Matteo, prendiamo insieme la telefonata di Fulvio da Torino, 800 24 00 24. Fulvio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Prego. Dato per scontato che il Milan sicuramente più forte del Torino, però io che sono tifoso del Torino non capisco cosa sia successo alla difesa del Torino nelle ultime partite, perché all'inizio del campionato era una saracinesca, ha giocato sempre molto bene e praticamente parte gli allori di Gilet, che almeno su due gol oggi penso che ne abbia colpa grave, e però anche in generale la difesa con la Juve, col Milan, si è proprio sciolta. All'inizio dell'anno Torino faceva fatica a segnare, ma perlomeno difendeva bene, era una delle migliori difese. Adesso non capisco questa involuzione grave che c'è stata. Matteo, sull'involuzione della difesa del Torino, anche se va detto che è dall'inizio dell'anno che soprattutto in casa sta facendo fatica la squadra di Ventura, va meglio in trasferta. Prego Matteo. Sì, decisamente, fino all'Olimpico la partita con la Roma non aveva mai perso, tanto per dire era l'unica in A con la Juve fino a quel punto. Ma io credo che sia un momento di calo anche di tensione della squadra, che ha dato molto per il modulo che ha il Toro, deve andare al massimo per riuscire a dare che protezione alla difesa. Non dimentichiamo mai che gioca con due laterali veri, forse l'uno è un unico nella Serie A, due laterali veri e propri che sono più ali che non esterni di centrocampo. Quindi credo che nel momento in cui la squadra perde un po' di freschezza, cosa che sta succedendo in questa fase qui, purtroppo subisce di più, ho visto soprattutto subire molto oggi dalle fasce, cioè il Sharawi è riuscito a entrare con una facilità, è un grande giocatore il Sharawi per carità, ma con una facilità sorprendente, in attesa. Sì, sì, sì, sì. Intanto gli amici al 349-238-6666, il Milan non prende Balotelli perché sono in troppi, strano perché Berlusconi aveva semplicemente detto che costa troppo, io penso che possano essere vere sia l'una che l'altra affermazione, cioè è vero che se non va via nessuno Balotelli non serve al Milan, non serve numericamente parlando intendo, ed è anche vero che se la valutazione è quella riportata ieri dai giornali, cioè fra i 35 e i 40 milioni di euro, Galliani non prende nemmeno l'aereo per andare a Manchester. No, io credo che bisogna essere realisti e fare un bagno tutti di realismo e capire quale momento è per il calcio italiano, cioè quelle cifre lì non sono proponibili per nessun club, non solo per il Milan, ma neanche la Juve, ha detto in settimana Marotta, sono utopistiche le definite certe cifre per il calcio italiano di oggi. Quindi si fanno operazioni come è stata quella di Pazzini con 7 milioni e vabbè, più che si arriva a prendere un giocatore, ma io credo che in questo momento sia impensabile che il Milan possa spendere più di 20 milioni di euro per arrivare a un giocatore, tra l'altro in questo, un attaccante che sì è importante, poi Balotelli ha grande risorsa, grande giocatore, ma che probabilmente sposta meno nell'equilibrio. Forse il Milan avrebbe proprio bisogno, anche alla luce dell'infortunio di De Jong, di prendere più a centrocampo o forse ancora di più in difesa. Non c'è dubbio. Tra l'altro sottolineo, Balotelli autore di 51 minuti di rara inutilità oggi nel derby di Manchester, sì. Sostituito da Mancini, non l'ha presa bene, quindi significa che i limiti caratteriali di questo giocatore rimangono. Sembra che soltanto Prandelli in nazionale abbia la ricetta per addomesticarlo. È vero che Minoraiola ha detto che vale più della Gioconda, ho l'impressione che costi anche un pochino in meno della Gioconda e che quella valutazione sia sballata a prescindere, non soltanto per il Milan, ma credo che questa sia una storia che scriveremo in estate più che a gennaio. Grazie Matteo. Grazie a voi. Grazie Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Ci fermiamo, traffico. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, c'è Giampiero Gasperini, microfoni di Sky Sport. Ho fatto due buone gare, è chiaro che adesso il nostro calendario è un po' diverso e lì dovremmo riprendere a rifare i punti che ci servono per il nostro obiettivo. Ilaria. Giorgio Pollà. Gasperini, buonasera. Il ritorno di Conte, che riflessioni fa Gasperini, che è un uomo molto vicino alla Juventus e che conosce Conte, quindi che riflessioni fa sul ritorno di Antonio Conte in panchina? Oggi abbiamo sentito prima le parole dell'allenatore della Juventus, che ha definito un grande dolore questi 4 mesi di squalifica. Sentiamo Gasperini e poi intanto saluto anche Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio. Ciao, buon pomeriggio. Sentiamo Gasperini, dai. Di vista, lei che suggerisce, che riflessioni fa? No, ma indubbiamente la sua è una vicenda molto, molto delicata e molto difficile, dove lui per mesi non ha parlato. Il suo rientro è importante, importante per la squadra, perché pochissimi allenatori come Antonio hanno dato un'impronta, un'immagine così determinante alla loro squadra. Quindi credo che se anche ci fossero delle cose, lui le ha pagate e adesso giustamente rientra, e con tutti gli onori, perché quello che ha fatto lui alla Juventus dal suo arrivo è veramente importante, quindi è giusto che riprenda il suo posto in panchina. Questo è Gasperini. Alessio, invece, il tuo pensiero oggi dopo aver rivisto Conte in panchina? Ah, sicuramente di felicità, perché beh, Gasperini diceva se ha fatto le cose le ha pagate. Io onestamente sono anche dell'avviso che non ha neanche fatto cose sbagliate, quindi è stato anche condannato ingiustamente. Detto questo, è vero che Gasperini ha detto che ha dato un'impronta, Antonio veramente ha dato un'impronta a questa squadra da 2 anni, una squadra che gioca a memoria. L'ho visto col solito entusiasmo, l'ho sentito adesso anche delle dichiarazioni post partita, insomma, lui è un leader, è sempre stato un leader anche nel campo, quindi adesso è veramente lui che comanda, che crea i giocatori, che fa giocare la squadra in questo modo eccezionale, e quindi l'ho visto veramente felice essere tornato dove è proprio il suo habitat naturale, quello di sentire, come diceva lui prima nell'intervista, il profumo dell'erba, vive passionalmente il suo lavoro, e quindi sono contento che sia tornato, anche perché è un grande amico. Hai visto bello carico, perché c'è chi come Enzo Bucchioni, direttore del Quest, ha detto l'ho visto comunque invecchiato, provato da questa vicenda. No, invecchiato no, onestamente no, sicuramente ha sofferto tanto, perché stare fuori veramente, è vero che poi la prepari tutta la settimana e sei sempre a contatto con i tuoi giocatori, però forse la partita è il momento più bello, dove magari gioisci con i tuoi compagni, con i tuoi giocatori, con il tuo staff nelle vittorie, e anche magari quando le cose non sono andate male. Mi ricordo la partita con l'Inter, ecco, forse lì gli allenatori sono veramente importanti, soprattutto allenatori condottieri e leader carismatici come Antonio. Quindi non l'ho visto invecchiato, l'ho visto solo che si è tolto veramente un grosso peso, adesso ricomincerà insomma a fare il suo lavoro che ama tanto. E allora con Alessio Tacchinardi riapriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. Una prima pagina che dice che Conte è tornato, ma la Juventus continua a vincere come prima. Successo pesantissimo nel fango di Palermo, primato sigillato in attesa di Inter-Napoli. Il tecnico ritrova la parola dopo 4 mesi e dice: star fuori è stato un grande dolore. E poi il Milan, che non si fa distrarre dalle voci di mercato, continua la scalata, passa Torino, conquista il 4º risultato utile consecutivo, 3ª vittoria, ora è 7º in classifica. De Jong si è rotto il tendine d'Achille, Allegri chiude all'arrivo di Balotelli e dice: siamo già in troppi. E poi questa sera la grande sfida di San Siro per trovare l'anti-Juventus. Stramaccioni o Mazzarri, chi dei due potrà sfidare Conte per il resto della stagione? Da Parigi arrivano invece voci di un accordo ritrovato tra Snyder e il Paris Saint-Germain. Io mando un abbraccio all'amico da Torino che scrive: è uno scandalo perché non parlate dei falli di Pazzini sul gol del Milan e il rigore negato al Toro, siete parte del sistema. Ne abbiamo parlato, amico, che non ti firmi, ne abbiamo parlato per un quarto d'ora con Graziano Cesari e abbiamo detto chiaramente che l'arbitro Romeo oggi ha sbagliato quasi tutto a Torino. Restiamo però su Conte, la Juventus e questa vittoria di Palermo, che mi sembra abbia sintetizzato bene Alessio, proprio Conte, cioè se alla fine l'avessimo pareggiata li avrei chiusi nello spogliatoio e saremmo rimasti qui in ritiro, perché non si può comunque sbagliare così tanto. Sì, siamo sempre qua, la Juve crea tanto, in tantissime partite ha creato sempre tantissime occasioni, oggi è stata una di queste, oggi veramente ha sprecato tante occasioni. Soprattutto quando cominciano ad essere pesanti i punti, siamo quasi a Natale, siamo quasi al giro di boa, non devi sbagliare con una squadra, comunque un Palermo che ha fatto la sua partita, ma devi chiuderla molto prima, e certo una disattenzione un po' poi per dare la partita ti può costare, non dico un campionato, ma quasi, anche perché le altre sono lì, Sornione aspettano, qualcuna anche in crescita, quindi dopo una buonissima pressione della Juve, insomma, a Gian Antonio, lasciarli nel spogliatoio, perché veramente ne ha creato veramente tante palle gol, ma soprattutto si vedeva la sensazione di essere con poca cattiveria, poco cinici, e quella poca cattiveria non è un bel segno per una squadra. Sì, ma tu credi che davvero questa sera da San Siro possa uscire l'anti-Juventus, o questo è comunque un campionato che ha un'impronta fortissima della squadra di Conte e ci si deve più o meno accontentare del secondo posto. Ma guarda, io penso che la Juve sia la squadra più forte, quella squadra che ha qualcosa in più in questo momento, però il campionato è ancora lungo, la Juventus dovrà affrontare poi la Champions League. Non dimentichiamoci che la Juventus, quando cala un po' il giri del motore, non va più al massimo ma cala un po' di intensità, diventa una squadra che, non dico come adesso che è devastante, che sta benissimo fisicamente, ma può perdere dei punti. Quindi le squadre dietro secondo me sono lì che sanno che c'è questa possibilità, che la Juve poi non è in Champions, non è davanti in Champions, può veramente stancarsi a livello psicofisico, quindi devono essere sognone pronte, non perdere punti. Io stasera penso che possa uscire l'anti-Juve, ripeto, la Juve è sicuramente la squadra più forte e quella più completa, però onestamente stanno crescendo anche altre squadre, la Roma, il Milan che zitto zitto sta salendo posizioni, e Inter-Napoli sicuramente, Napoli dovesse fare un risultato positivo, vincere stasera San Siro prenderebbe una grandissima carica. Sì, però io guardo la classifica e rifletto, seppure con un mese di novembre difficile come è stato quello della Juventus, perché si è trovata in Champions con le spalle al muro, due partite da vincere senza se e senza ma, contro quella contro i danesi e soprattutto quella con il Chelsea, e comunque una trasferta psicologicamente pesante come quella di Donetsk, beh, seppure dopo un mese di novembre così, io la trovo con 38 punti, potenzialmente può girare alla fine del girone d'andata a quota 47, quindi sta correndo anche molto più veloce rispetto all'anno scorso. Io faccio davvero fatica a immaginarmi una squadra che in campionato in Italia possa perderlo questo scudetto e non sia invece destinata a fare una corsa di vertice solitaria. Invece al 349-238-6666 Alessio, ti giro questa domanda di un nostro ascoltatore, evidentemente colpito dalla prestazione di ieri sera di Francesco Totti. Mi chiedo quale sia la ragione psicologica o fisica per cui ci sono alcuni fenomeni ultra trentenni come un paio di anni fa Del Piero e adesso Totti, io aggiungo anche Zanetti, che continuano a dare questo rendimento. Forse bisognerebbe valutare meglio prima di dare per finiti alcuni calciatori. Beh, è vero, quello che bisogna valutare meglio, insomma, qua noi in Italia, ma un po' da tutte le parti, siamo subito pronti quando qualche giocatore sopra i 35 anni che sbaglia qualche partita, magari fisicamente non sta bene, dà subito del bollito, del finito. Io penso che Francesco Totti sia un fuoriclasse assoluto, però la cosa effettivamente che mi ha meravigliato anche a me è questa condizione straripante che c'ha quest'anno. Sicuramente il lavoro che ha fatto Zen in preparazione gli è servito molto. Poi il talento veramente, Totti può giocare anche quasi camminando perché è veramente un talento assoluto. Però penso che sì, il problema è che in questo momento sta anche correndo e sì, non soltanto camminando. Ci ha messo veramente tanto, secondo me, la preparazione di Zena. Io lo dico Alessio sommessamente, ma se fra un anno Totti è in queste condizioni, io non posso credere che Prandelli non lo prenda in considerazione per il Mondiale. Ma anche perché, se poi valutiamo bene, negli ultimi anni Totti non dava la sensazione di questa freschezza fisica, di questa corsa per 90 minuti. Insomma, si vedeva un po' in difficoltà, carente fisicamente. Zema gli ha dato tanto, ma bravo lui che a quell'età lì, dopo tutto quello che ha fatto, si è messo umilmente al lavoro. Io guardavo i test che facevano quest'estate la Roma e lui, dopo la mela, forse era il secondo che correva più forte. Quindi certo, lui veramente, non c'è dubbio. Oltre alla passione che ha, il grande fuoriclasse, l'umiltà di rimettersi in gioco. Grazie certo. Alessio. Ciao, grazie Alessio Tacchinardi, ci fermiamo, il GR poi torniamo. Io vi ricordo i numeri per parlare con noi, 800 24 00 24, telefonateci per dire che cosa ne pensate di questa giornata. Intanto buone notizie per Giampiero Ventura, che sta bene, ha avuto un piccolo malore dopo Torino-Milan e per questo non si è presentato ai microfoni delle televisioni, ma ha detto Sassullo, che è il suo collaboratore, questa sera tornerà tranquillamente a casa, probabilmente un po' di stress. Saluto Stefano Colantuono, allenatore dell'Atalanta. Buon pomeriggio, anzi buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Colantuono. Lavoro difficile quello dell'allenatore, perché sempre più spesso sentiamo parlare di stress. Lo aveva denunciato Guidolina alla fine della scorsa stagione. Sappiamo tutti delle condizioni a volte difficili per Mazzarri, anche Ventura. Insomma, è notizia di oggi. Lavoro difficile, mestiere duro. Sì, intanto permettetemi di fare un grosso in bocca al lupo a Giampiero Ventura, perché gli sono molto vicino, così come credo gli sarà vicino tutta la categoria. Sì, è un lavoro duro, certamente è un lavoro da privilegiare, questo non va dimenticato, però onestamente lo stress, insomma, che accumuliamo in quell'ora e mezza di partita è veramente molto, molto importante. Non ricordo chi, ma un allenatore credo, qualche tempo fa disse: la professione dell'allenatore è il miglior mestiere del mondo fino al sabato. Invece poi c'è la domenica. Poi c'è la domenica e lì succede, capito? Che a volte veramente si soffre molto. Sì, tra l'altro stavamo guardando anche le immagini che vengono rilanciate in questo momento dalle televisioni. È stata una domenica particolare per un paio di allenatori, perché è stata una domenica particolare per Conte e molti hanno anche ironizzato sul suo modo di vivere la partita. Io però ho visto anche un Gigi Del Neri particolarmente teso in panchina a Pescara, tra l'altro Gigi Del Neri che non parlerà, per lui insomma potrebbe anche esserci un esonero perché è arrivato alla 7ª sconfitta in 8 partite sulla panchina del Genoa. Però lo stress che ho visto, la fatica negli occhi di Del Neri in questo pomeriggio a Pescara, io credo dicano molto della fatica di fare il mestiere dell'allenatore. Sì, ripeto, ha tanti lati positivi ma ne ha tanti anche negativi. Anche io ieri, comunque, se ci riferiamo alle varie facce da stress o da tensione, anche io ieri non ero da meno, perché anche noi venivamo da un momento un po' particolare, avevamo subito 3 sconfitte. È vero comunque che la nostra classifica siamo stati bravi a costruircela in tempi non sospetti e a farlo abbastanza bene, insomma avevamo dei buoni punti, però anche per noi ieri era una partita di vitale importanza e quindi come ho detto prima, in quell'ora e mezzo si accumula tanto di quello stress, tanta di quella voglia di poter fare il risultato, perché è molto importante, che poi alla fine esce distrutto dalla partita. Sì, classifica quella dell'Atalanta lusinghiera, quota 21, in realtà sono 23, sì. Non ci fosse la penalizzazione avrebbe un punto in meno del Milan e uno in più del Catania, che è certamente la rivelazione di questa prima metà del campionato. Beh, credo che per quello che riguarda il target delle medio-piccole, chiamiamole così, credo che insomma noi e lo stesso Catania, ma anche il Parma direi che poi è un punto sotto, stiamo facendo abbastanza bene, insomma. Sì, direi che abbastanza è anche limitativo, state facendo molto sì, bene certo. È sempre meglio tenere i toni bassi. Sì, certo. No, io trovo che la cosa che rende particolare questa stagione dell'Atalanta è che è la seconda stagione consecutiva di rincorsa. Sì. E io credo che questo per voi sia stato un peso particolare all'inizio del campionato, perché probabilmente un anno fa avevate metabolizzato l'ineluttabilità di dover partire con tanti punti di penalizzazione. Probabilmente doverlo rifare per una seconda stagione consecutiva ha avuto un peso psicologico superiore. Ha toccato un argomento giusto, perché mentre l'anno scorso lo sapevamo, la penalizzazione era molto più pesante tra le altre cose, però sapevamo di dover fare un certo tipo di campionato, e per una squadra, ripeto, medio piccola, insomma, concentrare tutte le energie su un'annata per fare un miracolo, perché quello secondo me è stato un miracolo, salvarci con un meno 6 una neopromossa, è stato un campionato veramente dove ci siamo spremuti molto. Doverlo rifare anche l'anno dopo, anche se c'è da dire che comunque la penalizzazione chiaramente quest'anno era inferiore. Sì, però 2 punti. Però è una partita, voglio dire. È una partita, sempre una penalizzazione. Comunque noi sappiamo che le squadre che fanno il nostro tipo di campionato a volte si salvano per un punto. E comunque partire già ancora di nuovo con 2 punti di penalizzazione e doverci ripetere, avevo paura che quest'anno poteva diventare un po' più difficile. Invece devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi, perché noi abbiamo fatto 23 punti finora, e l'anno scorso alla fine del girone d'andata ne avevamo fatti 26, quindi siamo in perfetta linea con quello che abbiamo fatto l'anno scorso, dovendo ancora giocare 3 partite dall'altro. Certo, io leggo un messaggio che è arrivato al 349-238-6666. Mi sa che a Pescara abbiamo trovato, non dico un nuovo Buffon, ma di sicuro un portiere papabile per la nazionale, e sta parlando di Perin, strepitoso. Io credo che Colantuono sottoscriva, perché Perin è davvero una delle sorprese di questo campionato. Però volevo allargare la domanda a un paio di giocatori dell'Atalanta. Uno è il portiere dei consigli, l'altro che mi intriga è Bonaventura. Volevo capire quali sono le potenzialità di questo ragazzo. Guardi, Bonaventura ha avuto dei margini di miglioramento rispetto allo scorso anno, che comunque fece molto bene, specialmente nella parte finale. Come tutti i ragazzi hanno bisogno di crescita, per lui l'anno scorso era il primo campionato, diciamo, vero in Serie A, anche se aveva già esordito, e gli è servito, diciamo, come apprendistato per conoscere, insomma, il mondo nel quale era stato catapultato, diciamo così. Ora quest'anno ne ha preso coscienza, ha capito che cosa bisogna fare per giocare con grande continuità e per dare, essendo lui un giocatore di qualità, incisività alla gara. E quindi è cresciuto molto e devo dire che ha fatto dei grandi passi avanti. Consigli è un giocatore di grande rendimento, non c'è dubbio. Nel giro della nazionale. Sì, non c'è dubbio, Consigli non è una sorpresa, Bonaventura quest'anno ha cominciato anche a vedere la porta, ma ha detto, se non ricordo male, qualche settimana fa che deve ringraziare proprio Stefano Colantuono di questa sua evoluzione, perché è stato Colantuono a insegnargli che si poteva anche entrare dentro l'area di rigore e crederci che i gol sarebbero venuti. Sì, perché lui tendeva, è un giocatore che ha delle grandi qualità tecniche, molto innamorato della palla, però tendeva poi a essere poco, a lasciare il segno sulla gara, insomma, non attaccava molto bene la porta. Quest'anno è molto migliorato e ne ha colto i frutti perché ha già fatto 4 gol. Con Antonio le chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi torniamo. Ci scrivono al 349-238-6666 per dire che siamo fuori dal mondo, la gente muore di fame, voi dite che è stressante fare l'allenatore, questo Gino, ma poi ce ne sono anche altri di messaggi. Stefano Colantuono, lo abbiamo detto, fare l'allenatore può essere stressante, ciò non toglie che sia un mestiere bellissimo e che lei non cambierebbe, no? Ho esordito dicendo che il nostro è un lavoro da privilegiati, per cui guardate, ascoltatore probabilmente non ci ha sentito bene. Io ho detto che il nostro è un lavoro da privilegiati e abbiamo una grande fortuna a farlo. Nel nostro piccolo anche noi viviamo dei momenti, come un po' tutte le professioni, di grande stress. Nel nostro piccolo, ripeto, ci si accumula in quell'ora e mezzo una grande carica di tensione, però ripeto, il nostro è un lavoro da privilegiati che avevamo già sottolineato in apertura di intervento. Sì, non c'è dubbio, con tutto il rispetto per chi fa il vigile del fuoco e tanti altri che ci vengono segnalati via SMS, e così l'abbiamo precisato. Sarà una settimana stressante per Colantuono, visto che domenica arriva la Juventus di Conte? Sì, sarà una, più che stressante, sarà molto impegnativa, anche perché martedì dovremo giocare la Coppa Italia contro la Roma, per cui dovremo recarci a Roma e sarà un altro bel match, per cui avremo due partite a distanza di pochi giorni molto impegnative. E questa Juventus che immagino ha visto oggi, che impressione le ha fatto? Ma la Juventus è sempre la stessa, ti concede poco, ti attacca, ti aggredisce, è una squadra che ormai gioca insieme da un anno e mezzo, hanno dei meccanismi di gioco ben definiti, fisicità, qualità, per cui in questo momento alla squadra più forte d'Italia e credo tra le migliori d'Europa. Certo, come si fa risultato in questo caso? Ma perché questo voi con caso, qualche grande risultato l'avete fatto, soprattutto in casa, più che in trasferta. Beh, abbiamo vinto a Milano comunque, abbiamo vinto con l'Inter e con il Napoli in casa, sì, quest'anno qualche soddisfazione con le grandi ce la siamo tolta. Se vuoi fare bene queste partite, e non è detto che comunque basti, perché tu puoi giocare anche la partita della vita, ma con queste squadre rischi di perdere, comunque devi fare, come dicevo poco fa, la partita della vita, la partita perfetta, sperando che ti basti. Sì, comunque mi sembra di poter dire, vista anche a Palermo, che questa sia una squadra destinata a perdere lo scudetto soltanto se a un certo punto della stagione interverranno delle condizioni particolari, perché esce da un mese di novembre difficilissimo ed esce più che mai rilanciata prima in classifica, vince partite su campi complicati come possono essere Palermo, ha vinto anche quando ha sofferto e lo ha fatto in questo mese di autunno. Io francamente faccio fatica a vedere davvero un'alternativa a questa Juventus. Sì, onestamente sì, se continua con questo trend sarà molto difficile, fermo restando che comunque il campionato è ancora lungo e ci sono c'è il Napoli che comunque dietro è una squadra che è la stessa Inter, ci mancherebbe, ma che ancora gli può dare del filo da torcere, però onestamente la Juventus è un gradino sopra le altre. Non c'è dubbio, grazie a Stefano Colantuono. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Stefano Colantuono, allenatore dell'Atalanta, 800 24 00 24 per dire la vostra in diretta. E ci spostiamo verso l'attesa per Inter-Napoli, lo facciamo con un doppio ex, Gigi Simoni, che saluto. Buonasera Simoni. Buonasera a voi. Ha davvero il senso parlare di ricerca dell'anti-Juventus, vista anche la Juventus di oggi, la Juventus di queste settimane? Ah, la Juventus è una squadra che sta facendo benissimo. Ora, magari l'anno scorso ha fatto partite, diciamo, più piacevoli a vedersi, però è sempre una squadra che ha un organico notevole, che ha facilità a fare gol, c'ha questa difesa che è eccezionale veramente, e quindi è la squadra che si fa scegliere come protagonista vincente alla fine, però poi il calcio può succedere di tutto. Adesso con la vittoria di oggi, la partita di stasera acquisisce un po' una importanza soprattutto per l'Inter. L'Inter non la può perdere, deve vincerla, perché altrimenti rischia di perdere il treno. Sì, anche perché l'Inter, sto dando un'occhiata al resto del calendario, da qui alla fine del girone d'andata a questa sera al Napoli, poi va all'Olimpico contro la Lazio ed è un impegno tutt'altro che da sottovalutare, poi c'è Inter-Genoa e poi alla ripresa c'è la trasferta a Udine. E quindi ci sono almeno 3 su 4 impegni che sono impegni difficilissimi, sono dei piccoli Everest. Sì, è vero questo, però anche queste squadre hanno dato fino ad oggi una sensazione di mancanza di continuità, vanno un po' a periodi, no? Soprattutto l'Inter è una squadra che ha un periodo bellissimo di risultati anche, poi dopo un periodo di difficoltà, un po' il Napoli uguale, la Juve è quella un pochettino più che ha mantenuto, diciamo, un rendimento elevato davanti di un paio di punti, se stasera il Napoli vince, altrimenti si comincia a scavare quel solco che c'è stato anche un mese fa, prima di questo mese di novembre difficile. A proposito di Inter-Napoli, questa sera qual è la chiave di questa partita? È ancora tutto da capire se Stramaccioni giocherà col tridente, non credo, o con una formazione un po' più coperta. Dove la può vincere, eventualmente, dove la può vincere il Napoli? Io penso che dovrebbe giocare con una formazione abbastanza coperta, perché il Napoli è pericolosissimo secondo me nel contropiede, io dico contropiede, comunque nelle ripartenze, perché ha questi attaccanti come Cavani, velocissimo, ha questa partenza di centrocampisti come si chiama Amsic, sì, è lo stesso Maggio. Cioè, sono giocatori che se trovano degli spazi diventano pericolosissimi, e quindi bisognerà che l'Inter, secondo me, deve giocare con prudenza, con la determinazione che ha e con la facilità in genere che ha con molti componenti della squadra ad andare in gol. Sì, dovrà essere un po' più provinciale forse di quanto è stata nelle ultime settimane. Stramaccioni non si deve arrabbiare, però alle volte serve anche quello. In fondo la sua Inter ha cominciato a fare risultati quando ha giocato più da provinciale, quando invece ha insistito a giocare con il tridente, a giocare probabilmente un calcio che non gli appartiene ancora in questo momento, sono arrivati i problemi. Sai cos'è? Che io calcio provinciale lo definirei quelli che adesso tentano di fare un senso di palla esagerato e magari non ne sono capaci. Diciamo che la qualità dei risultati in genere, parliamo anche del grande Inter di Mourinho, era quella di difendersi in 10 e magari anche con Eto'o a fare quasi il terzino sinistro, e allora non è più di provinciali questo gioco, No, assolutamente. Le squadre che si difendono in 9, in 10 sono secondo me quelle che possono ottenere risultati. Tra l'altro c'è un'immagine meravigliosa del Real Madrid di Mourinho nell'ultima di Champions, con il pallone che ha viaggiato per 96 metri in verticale in meno di 10 secondi dalla linea di difesa fino a Cristiano Ronaldo. Una volta si chiamava contropiede, questa volta probabilmente si chiama in maniera diversa, però altro che provinciali. Se si è capace di muovere la palla in verticale, lo dimostra il Napoli, significa che sia un gioco ben organizzato. La ricerca di una squadra deve essere quella di crearsi degli spazi larghi dove i difensori sono in difficoltà, e allora lì bisogna fare riuscire a tirar fuori la squadra più possibile e poi in 3 passaggi, 4 passaggi andare al gol. Una volta era il tipo di gioco del Padova di Rocco o di altre squadre che venivano definite come catenacciare. Oggi invece io credo che sia la qualità migliore. io quando vedo le squadre che adesso c'è la Juve che è un po' una perla grigia, una squadra che riesce a giocare molto alta, ha degli attaccanti che rientrano, giocano molto corti, però giocano quasi sempre nella metà campo degli avversari e rischiatissimo secondo me per tre difensori che ha che sono eccezionali. Sì, sì, e che gli consentono di giocare l'uno contro uno senza poi subire. Sono fenomenali, cioè anche se trovano tre attaccanti e loro sono tre difensori, riescono a parare colpi benissimo. Ecco, io il merito principale di questa squadra è questa grande difesa e questo poter cambiare gli attaccanti in maniera che quando gioca uno gioca Giovinco, fa gol Giovinco, gli altri non si arrabbiano, entra Vucinic, gioca molto bene Vucinic. Sì, quello imprescindibile è Vucinic, ce l'abbiamo visto anche oggi, straordinario anche nell'assist, Matri un po' meno. Grazie a Gigi Simoni. Grazie a voi. Grazie a Gigi Simoni, 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta. Maurizio da Napoli, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo affrontare un poco il discorso della Juve. Sì, diciamo che dica. Parlando, sannando, fortissima, nessuno lo mette in dubbio. Però diciamo ho da dire che la Juve ha molti aiuti arbitrali. Ma non mi sembra, diciamo, Maurizio. Oggi. Oggi praticamente con un'espulsione c'era un rigore per il Palermo e gli fanno la vita molto più facile. Sì, Maurizio, mi consenta, oggi c'era un'espulsione e c'era, e soprattutto è arrivata a partita quasi chiusa. Ne abbiamo parlato con Graziano Cesari, non c'era un rigore per il Palermo, l'impressione era quella. Graziano ci ha detto che quel fallo di mano che c'era era fuori dall'area di rigore. A me non sembra che in questo momento si possa circoscrivere il primato della Juventus a presunti favori arbitrali o anche in alcuni momenti ad alcune decisioni che sono state favorevoli per la Juventus. Credo sia troppo limitativo. La Juventus in questo momento è semplicemente la squadra più forte che c'è in Italia e quando è in condizione come in queste settimane è una squadra ingiocabile per tutti. Prego Maurizio. Posso ripetere? Allora, sì, io in questo caso non ho detto che la Juve non è la squadra più forte del campionato, però allora l'anno scorso il Napoli si è trovato a giocare la Champions League, no? Sì. E faceva fatica a giocare le partite in Coppa e lasciava qualche punto in campionato. Adesso non mi ricordo nello specifico quali sono state le gare, no? Se la Juve ha giocato in Coppa, in Champions League, e poi dopo si è trovato con due espulsioni, tre rigori inesistenti, fuori gioco, tutte queste fatiche che praticamente spreca in Coppa, le recupera con questi favori. Va bene, quindi lei ritiene che la Juventus stia lì perché ha qualche punto in più per questi motivi. A me sinceramente non sembra, ma non sembra anche perché in verità nel mese di novembre poi la Juventus con le fatiche della Coppa qualche punto lo ha perso, però insomma anche la sua è un'opinione che è rispettabile. Grazie a Maurizio, ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità. 800 24 0024, poi torniamo. 800 24 0024 per le vostre telefonate. Gianluca da Cuneo, buonasera. Buonasera, volevo Prego. Solo chiedere alcune informazioni se ne mi può aiutare per capire i problemi del Torino. Sì. A parte oggi che Gillet purtroppo ha fatto a due regali, lei non pensa che si possa vedere di fare giocare del Sansone al posto di Meggiorini e anche Cerci che purtroppo non dà continuità, o qualche giovane tipo Verdi o altri giocatori, e se secondo lei a gennaio c'è bisogno di qualche giocatore nuovo e in quale ruolo? Grazie. La ringrazio Gianluca. Beh, sicuramente qualcosa si può fare, anche se poi anche la qualità delle alternative che lei stesso ha citato non credo sia una qualità così elevata da poter pensare che il Torino possa fare un campionato diverso da quello che è in questo momento e che in fondo lo vede con 15 punti, diciamo in zona retrocessione, ma con alle spalle un numero adeguato di squadre. Io credo che quello che sta penalizzando il Torino e molto in questa fase del campionato sia la difficoltà di imporsi in casa. È lì che il Torino sta lasciando per strada molti punti ed è lì che in qualche modo Ventura dovrà mettere un riparo, e poi penso che se qualche intervento andrà fatto servirà soprattutto davanti, dove Bianchi non è un attaccante che garantisce un numero sufficiente di gol per poter pensare a una salvezza tranquilla, e dove anche Meggiorini è un giocatore che vede poco la porta. Alessandro da Genova, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo parlare del Genoa. Sì. Il presidente Preziosi, da quando ha licenziato Gasperini, che non si capiva perché la squadra era a metà classifica ed aveva un gioco spumeggiante che era apprezzata ad ogni livello in Italia, piano piano è andato incalando, e principalmente è andato incalando il carisma del presidente all'interno della squadra, come un grande manager che ogni giorno mette in discussione i suoi uomini. Ha preso il signor De Canio, una persona più corretta, che una delle più corrette che bazzichino in questo mondo del calcio, l'ha chiamato perché era il suo grande amico, ha salvato la squadra l'anno scorso. Era ripartito quest'anno con un sacco di progetti, la squadra a metà classifica, aveva dato una lezione di calcio per un'ora alla Juventus, se qualcuno se lo certamente ricorda. Una delle partite in cui la Juventus ha sofferto di più, non c'è dubbio. Ok, ha messo sotto la Roma per mezz'ora e poi non ha tenuto, c'era qualcosa da aggiustare? No, ha licenziato De Canio dicendolo ai giornalisti, nemmeno a lui, è una persona di infimo livello morale, e ovviamente se guida un'azienda non può andare bene con l'azienda, senza ombra di dubbio. Sì, Alessandro, sottolineo che la giochi Preziosi di Enrico Preziosi non va bene, va benissimo, quindi diciamo prendo tutto quello che lei ha detto nell'analisi di quelli che sono stati gli errori con il Genoa da parte di Preziosi, e se mi consente non prendo invece quello che è il giudizio sulla persona, ognuno è la persona che è e non tocca a noi esprimere dei giudizi. Per quanto riguarda la scelta di mandare via De Canio, certamente è stato un errore, e certamente secondo me è stato un errore ancora più grave sostituirlo con un allenatore che pratica un gioco per cui il Genoa non era stato costruito. Un po' il problema che ha trovato Gasperini a Palermo, dove lo ha detto lo Monaco ai nostri microfoni, attendono con impazienza il mese di gennaio per poter intervenire e correggere un mercato, quello estivo, che era stato fatto però per una squadra che andava costruita diversamente. Grazie Alessandro. Roberto dalla provincia di Roma, prego. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Radio, tanto sono la prima volta che vi telefono, sono estremamente contento di poter parlare con voi. Bene. Io sono uno sportivo romanista, ci tengo perché non sono un tifoso, i miei amici romanisti lo diranno, perché per me lo sport è una cosa fondamentale, no? Cioè uno sport è sintomo di educazione, di rispetto, di uguaglianza, di serenità, anche perché uno sport è un gioco, no? Io ieri stavo vedendo Roma Fiorentina, come ripeto, io rimpiango molto Montella, per cui era una persona che poteva fare tranquillamente l'allenatore con questa nostra squadra, una squadra nuova, eccetera, eccetera. Però volevo fare una piccola osservazione. Alla domenica sportiva, no? Si sente parlare sempre di Juve. Io non sono anti-juventino. Sì. È una squadra forte. Benissimo, signore, come si chiama lei? Mi scusi, io... Capuano, dica. Capuano, non è la prima volta che si sente sempre Juve. L'ho cronometrato. 14, 18, 21, 22 minuti, no? Ma io dico una cosa. Ma le altre squadre, il Palermo, il Catania, la Fiorentina, la Roma, la Lazio, l'Inter, ho capito che sopprime, ma si sopprime. Parliamo perché gli altri non sono mai secondi, terzi, quarti, quinti. Sì, perché ma se lei figli, si sta come dico, se, da Roma, se vanno le squadre, mi scusi tanto, prego. Con pizze e fighi c'è chi fa le squadre, arriva settimo, ottavo e nono, e non si parla mai di quelle squadre. Si parla sempre di Juve, Inter, Milan, anche Roma, perché la Roma per 8 anni sempre seconda e terza, si ricorda, no? Certo. Ma lo sport è un'altra cosa, non deve essere fatto solo di soldi, deve essere fatto di principi. No, ma Roberto, guardi, lei sfonda una porta aperta, però se lei ci ha ascoltato mezz'ora fa, noi abbiamo fatto una lunga chiacchierata, ad esempio, con l'allenatore dell'Atalanta, Stefano Colantuono, e l'Atalanta fa parte di quell'altro pezzo di campionato che non si chiama Juventus o Milan o Inter o Napoli, e che noi ospitiamo tutte le settimane molto, molto volentieri. Dopodiché la Juventus in questo momento è certamente la squadra più forte ed è certamente la squadra che fa parlare di più, a patto, e io sottoscrivo i messaggi di alcuni amici che stanno scrivendo il 349-238-6666, che non si voglia poi ridurre il primato della Juventus soltanto agli episodi arbitrali. Io non sono d'accordo e l'ho detto chiaramente, vedo che fortunatamente in tanti anche da casa non sottoscrivono questo tipo di discorso. Enzo D'Agrigento, buon pomeriggio, anzi buonasera. Buonasera. Prego, Enzo. Niente, c'è qualche problema di collegamento con Enzo, vi ricordo che dovete abbassare la radio quando entrate in collegamento con noi. Gianpietro da Crema, buonasera. Buonasera, buonasera. Prego. Spero non cadere via perché sono in auto. Niente, due considerazioni sul campionato in funzione anche di quello che ho sentito in trasmissione. Una squadra forte e collaudata alla Juventus, ha perso meritatamente con l'Inter, ha giocato male col Milan. È una squadra che secondo me, poi volevo chiedere il suo parere, necessita comunque di un acquisto che sostituisca il ragazzo danese. È una squadra che comunque, ripeto, rispetto agli altri è forte e collaudata, però gli manca veramente qualcosa, soprattutto quando, a parte oggi forse è un'altra occasione, deve sostenere le partite infrasettimanali, perché quando non ha la possibilità di preparare la partita durante la settimana, la partita successiva alla Coppa è molto sofferta. Sì, ha avuto qualche fatica, lo si è visto, non oggi, perché oggi io credo sia stata, soprattutto nel primo tempo, una delle Juventus migliori per continuità. Il pareggio era un risultato che ingannava, perché la Juventus aveva meritato a lungo di finire in vantaggio, tra l'altro su un campo difficile, reso molto pesante dalla pioggia e poi da una grandinata. Però è vero che a gennaio la Juventus dovrà fare qualcosa. Io immagino davanti, dove l'unico imprescindibile è Vucinic e dove servirebbe qualcuno capace di vedere la porta un po' di più. Oggi Matri purtroppo esce comunque ancora bocciato dalla possibilità che gli ha dato Conte, e poi io credo che qualcosa andrà fatto dietro, perché se davvero Lucio va via non si può pensare di affrontare 4 mesi con anche gli impegni europei senza una riserva per Barzagli, Bonucci e Chiellini, una riserva che non sia Caceres, che è un giocatore che comunque viene impiegato solitamente in un altro ruolo. Serve qualcuno di maggior peso, questo almeno è quello che io penso. Giorgio da Prato, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a voi. Prego. Partendo dalla partita di ieri sera, un giudizio mio sulla Fiorentina. La partita è stata bellissima. A mio parere ieri sera la Fiorentina è stata sconfitta da una Roma che ieri sera è stata superiore. La Roma, quando gioca a quei livelli, quindi quando le squadre di Zeman assimilano, come ieri ha dimostrato la Roma, la mentalità e gli schemi di Zeman, pressing alto di 7-8 giocatori, è veramente un'impresa uscirne senza avere le ossa rotte. Secondo me già il fatto che la Fiorentina sia stata comunque in partita fino all'ultimo minuto è un fatto positivo, anche se ha sofferto molto contro una grandissima Roma. Io credo che il campionato della Fiorentina, e dico questo siccome oggi sento dai miei amici qui qualche a Firenze qualche polemica, campionato altamente positivo, abbiamo perso su 16 partite soltanto a Napoli e a Roma, ci sta. Credo che con un acquisto di una punta a gennaio possiamo continuare a dire la nostra fino in fondo per un campionato di alta classifica, naturalmente non per lo scudetto, che roba di altri, insomma. Sì, ma io difatti credo che le battute sullo scudetto fossero battute che lasciavano un po' il tempo che trovavano. Poi sottoscrivo in pieno, la Fiorentina sta facendo un ottimo campionato, la Fiorentina sta giocando praticamente da un mese senza Jovetic, che è vale per la Fiorentina credo quanto possa valere, se non di più, Vucinic per la Juventus, e quindi anche questo andrà considerato quando si fa l'analisi di questa piccola frenata che la Fiorentina sta avendo nelle ultime settimane. Resta comunque una squadra che in determinate condizioni potrebbe anche arrivare alla fine di questo campionato a lottare per il terzo e per il quarto posto. Grazie. Giriamo invece pagina, parliamo di pallacanestro. Saluto Luca Chiabotti, collega della Gazzetta dello Sport. Buonasera Luca. Buonasera a tutti, ciao. E saluto anche Dan Peterson, buonasera coach. Ciao ragazzi. Noi parliamo in questa parte che ci separa dalla fine di A Tempo di Sport della crisi di Milano, della Milano del basket, e prendiamo spunto proprio da una paginata della Gazzetta dello Sport oggi a firma di Luca Chiabotti. Il titolo: Milano crisi nera, questa squadra può rialzarsi. Può rialzarsi, coach Peterson, o no? Assolutamente sì, perché pensiamo ai playoff, che sono più avanti, qualche mese avanti, ok? Per eliminare Milano dai playoff, una squadra deve vincere 4 partite contro di loro. Io non ci credo, ok? Io credo che Milano sia una squadra che sarà formidabile durante i playoff. È chiaro che stanno attraversando un momento estremamente difficile adesso. soprattutto in Eurolega, cioè sono fuori, ok? Però diciamo anche che escono dall'Eurolega. Loro devono assolutamente mettere questo alle spalle e pensare a qualificarsi per la Coppa Italia, fare la Final Eight e poi puntare per i playoffs, perché secondo me se le cose vengono insieme è una squadra formidabile per i playoff, assolutamente. Sì, c'è la necessità di pensare un giorno per volta, Luca. Ma assolutamente. Questo in tutte le situazioni. È chiaro che il problema di Milano, che ogni anno ha delle crisi simili a questa, è tutto il carico di stress, poca credibilità, rapporti che vanno a logorarsi durante questi momenti, ricerca sul mercato che logora però i dirigenti, che logora perché hanno già speso tanto, e tutte queste cose qui. Per cui alla fine, come ha detto coach Peterson, anche negli anni passati, Milano per la fine c'è sempre stata, ha fatto 3 delle ultime 4 finali scudetto, però bisogna capire che cosa costa in termini anche di pubblico, di ambiente, di tutto questo, di passare sempre degli anni in cui a un certo punto della stagione, generalmente fra dicembre e gennaio, sembra che sia stato tutto sbagliato. Sì, cosa costa arrivare a quelle finali, a quei risultati con un percorso che non è lineare? Esatto. Io vi chiedo un minuto di pazienza per le informazioni sul traffico, poi ci è raggiunto anche Dario Ricci che dalle 20:30 sarà in onda con Palla Spicchi. Traffico, poi torniamo sulla crisi dell'Armani. 800 24 00 24, per parlare insieme della crisi dell'Armani con Dario Ricci, Luca Chiabotti e coach Dan Peterson. Io vorrei ripartire, Luca Chiabotti, dalle parole di Giorgio Armani dopo la sconfitta contro lo Žalgiris in Eurolega, che secondo me sono la spia più preoccupante di Milano. Ha detto: io spendo una montagna di soldi e non vedo la voglia di vincere, non sono disamorato di questa squadra, però mi aspetto risultati. E secondo me questa è la spia più preoccupante, perché Milano deve sempre ricordarsi da dove Armani l'ha presa e quale era la situazione di Milano prima che entrasse Armani e prima ancora che Corbelli e qualcun altro ci mettesse dei soldi. Cioè, il rischio è davvero che in questo percorso non lineare si perda un pezzo delle possibilità che ha questa città di avere una squadra di pallacanestro di altro livello. Sì, chiaro, anche se l'allarme così, detto così, è forse più catastrofico di quello, sì, non c'è dubbio, che possa essere al momento. Diciamo che il signor Armani ha voglia di vedere la pallacanestro, se no non sarebbe stato al forum l'altro giorno. È chiaro che quello che dicevamo prima, non si può pretendere che una persona non abbia mai una soddisfazione, soprattutto non si riconosca e non riconosca nella sua squadra quello che invece è la sua disponibilità, la sua passione e la legge della propria azienda, dove probabilmente se i giocatori fossero dipendenti della Giorgio Armani S.p.A., chissà adesso dove sarebbero con gli stipendi che hanno e tutto quello che sì, hanno. Probabilmente sarebbero ex dipendenti, ecco, della Giorgio, esatto, Armani S.p.A., allora, diciamo, per brutalizzare che, la sintesi. No, ma è assolutamente così, per cui non si ritrova in determinate cose. Questo è un grossissimo pericolo, come hai detto tu. Io mi auguro e spero che questa situazione possa essere ancora rimessa in piedi, anche se poi quando si passa dal momento emotivo all'analisi tecnica di quello che sta succedendo, siccome molto di quello che sta succedendo dipende da partite buttate via all'ultimo minuto per evidenti problemi di testa, mancanza di sicurezza e tutte queste cose qua, poi diventa difficile andare a intervenire. Cioè, uno che sbaglia sotto pressione perché in questo momento non ha fiducia in se stesso, ma è un buon giocatore o non lo sarà più? Sì, è difficile pensare che sostituendolo si possa avere un risultato. Esatto. Dario Ricci. Beh, una domanda per coach Peterson. Coach, ma è Sergio Scariolo l'allenatore giusto per questo roster? Perché è la domanda che alla fine emerge alla luce di questa crisi, alla luce della conduzione della squadra. Lei che ne pensa, o soprattutto su quali aspetti Scariolo deve lavorare anche dal punto di vista tecnico, perché non può essere solamente un discorso psicologico, anche perché l'allenatore non è solo lo psicologo di un gruppo. Ma innanzitutto io devo dire che io sono sostenitore e anche un po' tifoso di Sergio Scariolo. Io volevo lui a Milano, è inutile nascondersi adesso perché le cose non vanno bene. Io quando ho chiesto il mio parere dopo la mia permanenza lì in 2011, ho detto spero che arriverà Sergio Scariolo, cioè, ho speso una parola per lui, non perché ho fatto questo che lo difendo adesso. Io dico guardiamo il record di questo uomo, come ha scritto Luca l'anno scorso quando ha fatto la finale con Milano, 7 diverse squadre di club ha fatto lui un finale, cioè, questo non è un caso. Poi la Spagna, 2 titoli europei, secondo un'Olimpiade. Quindi su Sergio Scariolo io trovo è difficile trovare difetti in lui come quello che ha fatto nella carriera. È chiaro che lui sta attraversando un periodo terrificante adesso, ok? E deve saper affrontarlo e risolverlo. Ma io, lui è una persona di grande capacità, grande intelligenza, ha la possibilità, avrà tempo e ovviamente qualcosa deve succedere anche in fretta. Sì, Luca, tu scrivevi ha bisogno forse anche di una figura che lo accompagni, una figura che faccia da raccordo tra lui e la società un po' più forte. Luca Chiabotti. Una banalità, nel senso che tutte le squadre che hanno avuto successo o che hanno successo hanno una figura tra la proprietà, in questo caso, cosa che a Milano non c'è in questo momento. Esatto, tra la proprietà, perché lui è talmente legato anche all'azienda Armani, è il numero due, cioè quindi è una persona forte della proprietà, non è un presidente di faccia. Quindi lui è la proprietà come il signor Armani. E l'allenatore ci vuole una persona che abbia delle possibilità di parlare con l'allenatore, parlare con la società, vedere la società cosa vuole, trasferire i desideri della proprietà sull'aspetto tecnico, conoscendo però il mercato, conoscendo gli allenatori, conoscendo sapendo che si prende una tal persona a fare una cosa, che cosa farà, perché ci vuole una cinghia di trasmissione che in questo momento non c'è. Di trasmissione e soprattutto una persona autonoma, esperta, che abbia questa possibilità e che poi dopo verrà valutato per il suo tipo di lavoro. Ma è chiaro che l'allenatore tante volte è troppo preoccupato da determinati aspetti tecnici e magari perde il grande disegno, cioè certi giocatori a Milano magari non li devi portare, certo, molto banalmente. Coach Peterson, facciamo il gioco della torre. Hendrix resta o deve andare? Ma innanzitutto rispondo alla... Sì. Anche Luca ha fatto un'osservazione perfetta di che io vorrei anche spezzare la lancia a favore di Livio Prole in questo senso. Se lui, come dice Luca, non fosse capo di Armani S.P.A. con 6.000 dipendenti nel mondo e chissà quanti negozi e centri, lui sarebbe per me uguale a Minucci a Siena, tanto per dire, cioè lui è una persona di grande capacità. Tornando alle torri, io non faccio queste scelte qua. È chiaro che gente come Hendrix, come stiamo dicendo, devono fare quello che sono portati al Milano per fare. Io ho visto Hendrix l'anno scorso a Maccabi Tel Aviv, venendo dalla panchina, ha fatto un buon contributo, hanno fatto un buon campionato in Eurolega loro. Lui deve semplicemente rendere di più, non può andare in campo a giocare 6 minuti e fare 5 falli, questo non esiste. C'è Mauro da Milano, abbiamo veramente 30 secondi. Mauro, buonasera. Buonasera. Prego. Ascolti, io volevo collegarmi al discorso di Scariolo a Milano. Secondo me il problema non è Scariolo, il problema è il gruppo, perché Scariolo è abituato ad allenare grandi professionisti come Gasol, Fernandez, mentre a Milano si trova Fazzis che dopo aver preso una triple in faccia da Travis Dinner contro Sassari tira un airball. Quindi c'è un problema di qualità del gruppo, Mauro. Sentiamo Coach Peterson, siamo davvero in chiusura, Coach. Ma innanzitutto, per me sputare sentenza su questo qui, che devo dire questo. Io l'ho nato 2 anni fa e la cosa oggi è completamente differente da quando io l'anavo 87. È più facile fare gruppo ai tempi, oggi tutti i giocatori sono mini multinazionali, okay? Sì, ci sono delle difficoltà oggettive, poi è facile da fuori dare dei giudizi che magari sono poco collegati con la realtà. Io ringrazio Luca Chiabotti, coach Dan Peterson, purtroppo il nostro tempo è finito, Dario Ricci 20:30 in onda con sicuro con Palla Spicchi. Con Palla Spicchi ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone e Roberto Scaltretti che si sono alternati in regia. L'appuntamento domani con lo sport alle 14 con tutti i convocati. Carlo Genta.